E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. 18 e 6 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. Cominciate a scaldare il ditino 800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per i vostri interventi in diretta 18, 20 e 30. Questo è l'orario della zanzara estate. E allora state con noi, intanto titoli di Sky TG24. Monti ammette troppe tasse, ma non c'è nessun taglio dell'IRPEF in vista. L'Ecuador dà asilo ad Assange, Londra furiosa, protesta anche la Svezia. Ancora blocchi e proteste per l'Ilva, il ministro Clini atteso a Taranto domani. Le festività non si toccano, marcia indietro del governo sull'ipotesi accorpamento. Vacanze in crisi, la Coldiretti fa i conti, ieri pranzo a casa per un italiano su quattro. Sudafrica la polizia spara contro i minatori in sciopero, almeno 18 morti. Piazza d'Olio nel mare di Taranto, intervento rapido e situazione sotto controllo. Storia, vittoria e tradizione, festa in famiglia per la Juve a Villarperosa, diretta su Sky. Così i titoli Sky TG24, e allora ripetiamo 800 24 00 24 per intervenire in diretta questa sera. Cosa resta di questo tornante che è il Ferragosto, di questo tornante estivo che segna un po' un punto di svolta del periodo estivo e quindi si riparte verso l'autunno? Beh, c'è il governo alle prese con il caso Ilva, domani ci sono i ministri Passera e Clini che andranno a Taranto a vedere un po', a fare un tavolo in prefettura, eccetera, insomma, e questo sul fronte, diciamo, delle emergenze. Ci sono si fanno i conti, diciamo così, dell'ultimo grande e importante provvedimento varato, la Spending Review. Ci sono per esempio le province, abbiamo sentito Trapani, sentiremo Sondrio, che faranno di tutto per tentare di sopravvivere. C'è tempo fino alla fine dell'anno per questo aspetto dello Spending Review, che non è da sottovalutare, il riaccorpamento delle province. Sul fronte politico invece non è che ci sia molto. C'è una Lega, per esempio, che si presenta ai suoi classici appuntamenti estivi per la prima volta divisa, con il nuovo segretario Maroni in vacanza in Sardegna, accolto bene dal segretario regionale, che ha detto faremo grandi risultati anche qua alle prossime elezioni. Intanto però Maroni è in vacanza in Sardegna, lontano dai luoghi classici che contraddistinguono invece normalmente l'estate degli uomini della Lega, Bossi, Calderoli, ricordate le cene con Tremonti, eccetera. Bossi, che ha tenuto un comizio, non era a Ponte di Legno, dove invece c'era Salvini, ma sentiamo Bossi, per esempio, sulla questione. Poi dirà anche: io nella Lega resto, non ho titoli, non ho bisogno di titoli per rimanerci. E quindi, diciamo, annuncia la sua presenza, anche se secondo qualcuno comincia a essere ingombrante, se non lo era già prima, adesso, la presenza di Bossi nella Lega. Sulla questione dell'euroregione, della macroregione, di cui aveva parlato anche Formigoni, presidente della Lombardia, sul serio, Bossi dice: la macroregione in realtà esiste già. Un mese fa abbiamo dato vita a un'euroregione. Tutte le regioni del nord, Lombardia in primis, Veneto e Piemonte, hanno sottoscritto con i popoli limitrofi, amici come la Svizzera, come la Baviera, come le regioni austriache, che hanno sottoscritto la nascita dell'euroregione, secondo legge europea, tutto regolare. Che non si capisce se questa esternazione sia uno schiaffo a Formigoni, che aveva proposto la macroregione, cioè Bossi, a dire c'è già, guarda che ci sono degli accordi, siamo andati avanti su questo, quindi a dare qualcosa in pasto al suo pubblico, oppure cos'altro. Secondo un senatore, non di fatto, ma di nome, cioè nel senso non di nome, ma di fatto, della Lega, come Giancarlo Gentilini, vice sindaco di Treviso, Bossi però deve smetterla di fare queste dichiarazioni estemporanee, in cui non deve più parlare ai comizi. Insomma, detto a Gentilini, che è uno che nella Lega è abbastanza ascoltato, insomma. Bossi però dice: io, come dicevamo prima, non ho bisogno di titoli per rimanere nella Lega, resto, punto e basta. Io nella Lega ci sono e quindi conto. Io non ho bisogno di un titolo, resto Bossi. Chiudiamo il capitolo Lega con Matteo Salvini che da Ponte di Legno, Bossi assente, dicevamo, dice beh, facciamocene una ragione. Ci siamo, e non è un'altra Lega, Dopo 22 anni non c'è Umberto Bossi, è la vita. 800 24 00 24, dicevamo la missione impossibile delle province che vogliono sopravvivere. Sentiremo Sondrio, sentiremo anche cosa si agita in Sicilia in vista delle elezioni regionali, perché avremo ospite il candidato Grillino, una novità sulla scena della politica siciliana. Invece due giorni fa abbiamo sentito Miccichè, Gianfranco Miccichè, candidato di Grande Sud, candidato probabilmente anche del PDL, anche se i giovani del PDL hanno qualcosa da dire sulla sua candidatura, preferivano le primarie. E allora noi abbiamo ospitato Miccichè, vi facciamo risentire, lui si è indispettito perché volevamo fare un confronto anche con il responsabile dei giovani del PDL siciliani, la Mantia. Sentiamo com'è andata con Miccichè. Sciori, sciori, sciorilli tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. Se lei avrebbe parlato con Berlusconi, lui le avrebbe detto di andare. No, ma questa volta, se mi posso permettere, sì. Dopo la mia candidatura nata all'interno del mio partito e quindi presentata con una grande manifestazione che c'è stata a Catania, successivamente il segretario nazionale Alfano, che ha anche alcune telefonate, un altro uomo ovviamente importante e determinante del PDL siciliano, che è il presidente del Senato Schifani, e poi con chiamata diretta del presidente Berlusconi mi è stato chiesto di essere il candidato di tutto il centrodestra. Mi dica solo se ci vuol parlare con la Mantia, perché l'abbiamo in linea anche lui. No, io non, questo, ripeto, non ci vuole parlare? Non vuole approfittare dell'occasione per conoscerlo, perché lui avrebbe delle cose da dire. È uno che fa politica nel centrodestra siciliano. Una sua agenzia mi è passata, per cui non ho, sinceramente, poi la prego, non mi metta in imbarazzo. Il suo possibile o più importante avversario, Rosario Crocetta, che è sostenuto dal PD e dall'UDC, ha detto che non metteranno indagati per mafia in lista, non condannati, ma indagati. Cioè un codice etico molto spinto. Lei è d'accordo? Io sicuramente un codice etico sono pronto a firmarlo. Che non sia un codice etico che mette nelle mani totali delle procure i nomi dei candidati. È così dunque la questione siciliana. A proposito di candidati, se volete dare il vostro appoggio alla petizione dell'onorevole Pedica dell'Italia dei Valori su Facebook, la trovate, ha messo la lista degli onorevoli che sono da più tempo in Parlamento e dice non votate per esempio la Malfa, che è da 35 anni in Parlamento, non votate Tassone, non votate Casini e Fini, che sono da 28 anni in Parlamento, non votate dice Pedica dell'Italia dei Valori tutta questa gente alle prossime elezioni, ed arriva fino a Dell'Utri, 16 anni e qualche mese, si ferma lì, chissà perché, forse perché Di Pietro, il leader del suo partito, è da 15 anni in Parlamento, quindi diciamo questo confine è un po' aleatorio. Adesso, a dimostrazione che non solo i governi politici vivono di dichiarazioni estemporanee e di qualche così diciamo traballante avanti e indietro, sentiamo stamattina il ministro Gnudi sulla questione dell'accorpamento delle ferie di cui si era parlato e aveva trovato anche parecchi sostenitori per risparmiare, diciamo, per avere giorni lavorativi in più e far crescere il PIL. Ricordate, era una proposta. Gli hanno chiesto, ma è stata accantonata questa proposta? E Gnudi dice, beh sì, non se ne parla più. L'ipotesi di accorpare le festività, ipotesi che tanto aveva fatto preoccupare gli operatori del turismo, è accantonata per sempre o il governo la riprenderà in considerazione, la tiene di riserva? Io penso che sia stata accantonata per sempre. Cioè, è un tema che va a toccare i sentimenti profondi del nostro paese, non lo puoi maneggiare come un tema. Come solamente una frazione del PIL, e quindi io credo che questo tema è accantonato. È un capitolo chiuso. Per questo governo. A proposito di notizie di questi ultimi giorni, avete sentito la questione degli interventi in TV a pagamento? In due TV locali dell'Emilia Romagna erano diversi esponenti politici a pagare. Qualcuno ha detto tutto regolare, erano messaggi autogestiti. Per l'associazione della stampa invece c'è di che indagare e cercare di capire, perché non si paga in TV per fare l'ospitata politica, questo non si dovrebbe fare. Il consigliere Emiliano Romagnolo dei Grillini, pescato anche lui tra quelli che hanno ammesso sì, in effetti pagavamo, dice però adesso in una dichiarazione, non so se a Repubblica TV, era tutta una, no, non è a Repubblica TV, una dichiarazione contro Repubblica, dice era tutta una montatura di Repubblica contro di noi. In realtà questa è stata un'operazione studiata, in questi giorni vanno a parlare del processo ad Errani. Repubblica ha creato questo finto scoop perché sul nostro sito è scritto da 2 anni che noi acquistiamo questi spazi. E quindi insomma tutto regolare secondo Favia, consigliere Grillino dell'Emilia Romagna. Dicevamo dell'Ilva, il governo alle prese con il caso Ilva, domani Passera e Clini saranno a Taranto. Allora sentiamo una dichiarazione, tanto così per gettare un po' di acqua sul fuoco, per calmare un po' le acque dell'IDV. Belisario che dice, cos'è che dice? Sentiamo. Difendiamo la magistratura e domani saremo a Taranto, ci sarò anche io, per accogliere i 3 ministri che mi sembrano i 3 signori dell'Apocalisse. Vogliamo capire cosa verranno a fare. Adesso i 3 ministri sono diventati addirittura i signori dell'Apocalisse per quanto riguarda il caso Ilva a Taranto. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Ci sono già alcuni ascoltatori in linea. Cominciamo con Domenico che ci chiama da Torino. Buonasera. Buonasera. Eccoci. Buonasera qua. A lei. Prego. Niente, io volevo dire una cosa che può interessare a tutti. Cioè, il mio lavoro consiste in inquinamento da traffico veicolare. E dopo anni di ricerca, di esami del Politecnico, abbiamo scoperto questo, che sì, adesso noi ci preoccupiamo dell'Ilva perché nell'ambiente vengono immesse queste polveri, ma nessuno si è mai chiesto quando vengono catturate che se ne fanno. Vuole saperlo? Questa è una bella domanda, anche se basta toglierle dall'aria e non farle respirare la gente. Che fine fanno queste polveri? E io lo dico io, vengono usate nelle pastiglie dei freni come filler, materiale riempitivo, perché se qualcuno potesse prendere una pastiglia, tagliarla in due, il 70% non è la classica pastiglia a materia frenante, ma è materiale riempitivo a basso costo. Cioè, quelle sono scorie da industrie siderurgiche. Poi vengono trattate, si chiama reaction boarding, e vengono mischiate con sostanze polimeriche, metalliche, ceramiche e carboniche. Allora la domanda è questa: se per beccarsi il cancro non basta fumare, ma ci vogliono degli attivatori, e il fenolo e la silice che sono dentro le pastiglie dei freni sono attivatori, ecco dov'è la differenza perché un fumatore di Milano e uno di Torino muore. Perché basta sbagliare via, respirare per mezzo da fenolo e silice, che sono nelle pastiglie dei freni, 25 tonnellate al giorno in Italia vengono immesse nell'ambiente all'oscuro di tutti perché ci sono immatricolate 50 milioni di auto. Mezzo grammo per metà parco macchine fa 25 tonnellate. E voglio dire anche questo, queste polveri sì, quindi la conclusione causa della morte dei macrofagi del sistema immunitario, sono distruttori endocrini e provocano diabete da materie plastiche. In più colpiscono il P53 chiamato il guardiano del genoma, il P16, e in più sì, però mi scusi Domenico, se lei mi vuol convincere che detto questo non dobbiamo preoccuparci dell'Ilva perché tanto c'è anche questo, perché tanto c'è anche quell'altro, a me personalmente non mi convince. Bisognerebbe intervenire ogni volta che c'è una fonte di inquinamento che fa male, molto male alla salute, come credo sia anche il caso dell'Ilva di Taranto. Non è che un caso esclude l'altro, questo credo assolutamente di no. Non so se voleva aggiungere qualcosa Domenico. Ma sì, sì. Volevo aggiungere che se una persona viene colpita da un male incurabile, se vengono respirate composite matrici e nanotecnologie, sono all'oscuro di tutte, di tutti, dov'è la cura del cancro? Va bene, Domenico. Io sì. Tramite il Politecnico che è accertato che c'è fenolo. Guardi, di queste questioni si può discutere quanto si vuole. Lei ha buttato lì alcuni argomenti di discussione, vediamo. Poi, ripeto, l'importante è che non, almeno personalmente, che non mi togliete dei punti fissi. Non è che se si inquina anche altrove non bisogna intervenire all'Ilva. almeno io la penso così. 800 24 0024. Allora, interventi in diretta ancora ne sentiremo. Prima però salutiamo Maurizio Gasparri, presidente dei senatori del PDL. Buonasera, che ci ha raggiunto. Buonasera a lei. Buonasera. Il 16 d'agosto, pochi meritati o meno, questo lo decideranno gli elettori, giorni di ferie anche per voi parlamentari. Gasparri, prima di tutto le vorrei chiedere di questa cosa che c'è sui giornali, di questa mozione di sfiducia che la Lega vorrebbe presentare per quanto riguarda l'operato del ministro della giustizia Severino, che divide un po' il PDL. Lei ha detto: io, se la presentano, sono pronto a votarla, perché, anzi, il PDL dovrebbe valutarla, perché l'operato del ministro Severino non va bene. Perché non va bene? Come lei ha detto correttamente, ho detto valuteremo queste iniziative, non presenterò mozioni di sfiducia, né ho tratto la conclusione che voteremmo la mozione di sfiducia della Lega, ho detto semplicemente che va valutata, perché ci sono una serie di profili negativi nell'azione della Severino. Numero uno, questa vicenda del tour nelle carceri di alcuni esponenti parlamentari della sinistra che sono andati a parlare con dei boss della mafia e della camorra, possono visitare le carceri, sì, ma per verificare la condizione di detenzione, per i controlli appunto sulla situazione carceraria, non per fare gli investigatori. Non è come di noi entra in carcere e si mette a dire a uno cosa fai, cosa non fai, dammi delle notizie o decidi di avvalerti di questa o di quella facoltà. È una responsabilità molto grave che ricade sulla omessa vigilanza del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e quindi sul Ministro. Ed è una vicenda sulla quale in Parlamento intendiamo andare fino in fondo, a prescindere da quello che farà la Lega, perché sì, questa cosa è sconcertante. Secondo, sì, c'è una valutazione da parte nostra negativa su alcuni provvedimenti. Il ministro Severino vorrebbe che noi modificassimo al Senato quella norma sulla responsabilità civile dei giudici che è stata approvata alla Camera. Noi non siamo d'accordo, perché un'eventuale modifica poi farebbe sì che questa legge andrebbe avanti e indietro tra Camera e Senato, il tempo della legislatura è abbastanza breve, si finirebbe per non farne nulla. Sancire la responsabilità civile dei giudici è a nostro avviso una necessità e una esigenza dei cittadini. Terzo, sulle intercettazioni, noi vorremmo che ci fosse finalmente una normativa. Il ministro è molto esitante, non ci si può muovere solo se viene sferrato qualche palazzo da un'intercettazione come è successo per il Quirinale. La necessità di regole che non aboliscano ma che disciplinino diversamente le intercettazioni esiste da tempo, e qui anche questo modo incerto di mostri del governo e del ministro Severino ci lascia dubbiosi. La chiusura dei tribunali è stata realizzata con scelte in molti casi opinabili. Io sono convinto che in alcuni casi aspetti clientelari di apparati del Ministero abbiano fatto salvare la località X piuttosto che quella Y, e quindi le decisioni prese non sono state conformi ai pareri delle commissioni parlamentari, che avevano detto di chiudere alcune sedi, come era giusto che fosse, si è data una delega al governo già da anni in questa materia. Il Ministro ha ignorato il parere delle commissioni giustizia di Camera e Senato, che ovviamente nell'attuazione di una norma per chiudere delle sedi avevano indicato dei criteri. È molto grave che il Ministro non abbia rispettato l'opinione del Parlamento. Sì, ma come vedete, di motivi di critica ce ne sono tanti. Senta, quindi, ma su questa cominceremo dal discutere in Parlamento con un'iniziativa che assumerà il Popolo della Libertà, questa sì, che non è una mozione di sfiducia, vedremo lo strumento di questo tour nelle carceri di esponenti della sinistra, Lumia e Sonia Alfano, che sono andate a fare una sorta, non ho capito se di colloqui investigativi o non lo so che cosa. Loro dicono, noi abbiamo anche sentito Sonia Alfano, sì, e lei dice che erano colloqui dove c'erano anche altre autorità presenti e hanno parlato in pratica solo delle loro condizioni di salute in carcere, con Provenzano e con altri, e che lei avrebbe solo detto invitati a pentirsi e a collaborare con la giustizia. Ora io questo non lo so se rientra nel carcere. È un po' strano. Si dice che abbiamo parlato in dialetto, sì, per non far capire alcune cose. Resta molto misterioso questo episodio, sì, francamente. Il Ministro ha delle responsabilità. Noi chiederemo che venga al Senato per parlare di queste vicende e valuteremo se poi su queste vicende il Senato dovrà esprimersi con un voto o meno. Sulla questione dei tribunali, no? Sull'accorpamento, la riduzione delle sedi dei tribunali, lei ha detto che il ministro non ha rispettato i pareri delle commissioni. Qualcuno però sui giornali scrive che lei si sarebbe anche un po' arrabbiato perché è stato toccato e sarebbe chiuso anche il tribunale di Rossano, che è nella sua, viene definito il feudo elettorale, cioè là dove lei magari viene eletto, un feudo elettorale, non so, collegio elettorale, chiamiamolo più semplicemente, guardi, collegio elettorale. Il parere delle commissioni parlamentari non riguardava Rossano, era tra le sedi che il Parlamento diceva di tenere aperta, ma ci sono molte situazioni, le faccio un esempio, in molte regioni del nord, in Piemonte si è fatta una serie di decisioni francamente sbagliate, in Piemonte c'è una devastazione del panorama dei tribunali. Proprio poco fa, l'ultima mail di protesta che ho letto mi è stata scritta da un avvocato di Vigevano, leggerò le osservazioni di Vigevano, non ho approfondito le questioni relative a quella sede, però per esempio in Piemonte c'è un contenzioso molto molto forte. In Calabria non ha senso chiudere una sede, si è detto che nelle regioni dove c'è una forte presenza criminale la struttura giudiziaria non va indebolita, dopodiché se ne chiude una non si capisce qual è il senso, qual è il risparmio, francamente. Quindi nelle regioni del Insomma, se si chiudono delle sedi periferiche il risparmio è evidente, no, da questo punto di vista, Gaspari. Ma poi i criteri, allora, su questo problema, le posso dare ragione, che ci sono criteri che vanno seguiti. Del Piemonte, della Lombardia, ci sono situazioni, anche oggi per esempio in Veneto c'è Bassano del Grappa, una città importante dove si contestano le decisioni prese, la Commissione del Senato, ma anche quella della Camera, mi riferisco al parere della Commissione del Senato, aveva evidenziato alcune situazioni del nord, del centro o del sud, quindi non solo quella che lei cita, che sono da rivedere, peraltro la delega consente dei provvedimenti aggiuntivi. Siccome il governo ha sbagliato in diversi casi che riguardano, ripeto, regioni sparse in tutta l'Italia, sto parlando di Bassano e Grappa, le posso parlare di Rossano, ma le posso parlare anche di alcune situazioni del Piemonte o della Lombardia, il governo farà bene a correggere gli errori fatti, perché ci sono dei contesti in cui sarà più il costo che il risparmio, perché la chiusura ha un senso se determina un risparmio e non ostacola il corso della giustizia. Beh, questo è evidente, questo è uno squilibrio, ci sono distanze da alcune zone. Ma nel caso di Rossano, lei prevede che la chiusura possa avere altri, cioè creare maggiori costi del perché? È solo quello. Le posso citare il caso di Bassano, il caso di Rossano e altri casi che il Parlamento aveva evidenziato, proprio perché le distanze da altri tribunali, poi se uno c'è il funzionario del proprio ministero che è di una certa città, probabilmente quello ha fatto una scelta. Questo però vale anche per i parlamentari, onestamente questo può valere anche per i parlamentari, non è che... Ma io le faccio, lei ha perfettamente ragione nel porre questo dubbio, ma io faccio riferimento al parere che è stato emesso dalla Commissione Giustizia del Senato, che è un parere parlamentare che è argomentato perché non riguarda un solo caso, ci sono diversi casi dove motivatamente il Parlamento ha dato un indirizzo al governo che riguarda, ripeto, situazioni del nord, del centro o del sud. Poi nel sud il governo che ha detto c'è un problema di maggiore, ahimè purtroppo, presenza criminale in alcune regioni del sud, e quindi questo deve comportare una presenza più agguerrita dello Stato, lì è un aggravante avere disarmato alcune situazioni. Però vi ripeto, il mio riferimento è al parere della Commissione. Su questo diciamo abbiamo capito, c'è una sorta di braccio di ferro tra il ministro e il Parlamento. Non riguarda un solo caso, riguarda diversi casi. Sì, sono stati citati Bassano, anche altri in Liguria. Resti con noi, Gaspari, se ancora qualche secondo di tempo, perché dobbiamo fare le informazioni sulla borsa. Poi le voglio chiedere anche se lei si è risentito come la Russa, però lei ha preso nella pagella dei giovani formattatori del PDL, lei ha preso 5, la Russa ha preso 3, si è arrabbiato un po'. Meglio di la Russa, peggio di altri. Adesso poi ci dirà cosa ne pensa anche di questa iniziativa dei giovani, vogliamo chiamarli così, formattatori del PDL. Di nuovo in diretta 800 24 00 24, cari ascoltatori, per intervenire in diretta tra pochissimo siamo ancora in compagnia del presidente e senatore del PDL Maurizio Gasparri. Prima di farle commentare la questione delle pagelle, in verità una cosa estiva, una cosa leggera, vorrei chiederle, sempre per quanto riguarda la giustizia, per capire se ci sono dei margini, la questione, il cosiddetto trittico, cioè un pacchetto composto da il vostro emendamento sulla questione della responsabilità civile dei giudici, più il provvedimento sulle intercettazioni così com'è e le norme anticorruzione già approvate in uno dei due rami, che vuole la Severino, cioè un compromesso, diciamo, tra questioni di sensibilità più del centrodestra, come per esempio la questione della responsabilità civile, e invece norme che vanno nella direzione richiesta magari dal Partito Democratico, come quelle della norma anticorruzione. Un pacchetto così lo approvereste con tutte e tre le cose o no? Guardi, mi deve dare qualche secondo nel merito, non è che si può dire sia mica il quinto. No, perché di alcune cose ne aveva già parlato. Abbiamo avuto un incontro pochi giorni fa con la Severino, io, Cicchitto, Alfano e Ghedini, che è il presidente della consulta giustizia del PDL, con la Severino, 2 ore e un quarto, assolutamente inutile. Noi vogliamo una norma sulle intercettazioni che limiti le pubblicazioni e che regolamenti con maggiore severità il ricorso a questo strumento, che va usato ma di cui non ci deve essere abuso, e la Severino non ci ha dato risposte soddisfacenti. Vogliamo una norma sulla responsabilità civile dei giudici e la Severino non ci ha dato garanzie sull'iter definitivo di questa norma. Sulla legge anticorruzione la vogliamo, la propose Alfano quando era ministro della giustizia, abbiamo alcuni dubbi su alcuni aspetti. Le faccio un esempio, sarebbe lungo il discorso ma solo un accenno, al traffico di influenze. Traffico di influenze è definito in maniera più rigida, perché altrimenti qualsiasi contatto, qualsiasi accenno, qualsiasi colloquio può diventare, cos'è un traffico di influenze? Uno che parla a un altro di una persona in mano a magistrati politicizzati, una norma di questo tipo potrebbe essere motivo di abusi. Quindi ne vorremmo su questo maggiore chiarezza, perché vogliamo combattere la corruzione, non vogliamo però norme ideologiche che creino solo confusione. Su tutti questi temi ci siamo confrontati su questo trittico, i primi di agosto, con la Severino, con esito deludente. Se la Severino cambia idea, saremo pronti a condividere, a votare e a dare il nostro contributo. Se la Severino non cambia idea ed è sotto ricatto del Partito Democratico, non si va da nessuna parte, forse la Severino che andrà da un'altra parte. Senta Gasparri, che effetto le ha fatto, l'avrà letta, no? questa famosa pagella, poco televisivo ma passionale. Dice, aveva detto, gliela leggo, tanto sono due righe, no? Così, giusto per ridere. Aveva detto a Berlusconi che i Finiani ai tempi del 14 dicembre erano quattro gatti e che il PDL non doveva preoccuparsi. Ci è mancato poco che facessimo la fine dei topi, salvandoci per un voto. Poco televisivo ma passionale, a lui preferiamo Neri Marco Re. Fomentatore, voto 5. Si allora, riconosce, guarda, in questo? La cosa è stata fatta da un giovane che è sindaco di Pavia, sì, che ha 32 anni, che da un anno è sindaco di Pavia. Faccia bene il sindaco di Pavia e poi da grande però fa anche un po' di politica, poi, dai. Quindi intanto faccio quello che deve fare e spero si faccia rieleggere sindaco come i sindaci devono fare. Per quanto riguarda la vicenda, è anche disinformato chi ha scritto la pagella. Io e la Russa demmo esattamente i nomi completamente precisi di come avrebbero votato gli esponenti di AN, 2/3 a favore del governo, 1/3 no, con l'elenco nominativo abbiamo indovinato il 99%. Altri invece, non noi, dicevano cose diverse. E quindi questa vicenda è storicamente, come dire, errata. Non conoscono i fatti e quindi scrivono una cosa che hanno letto da qualche parte. Noi abbiamo ancora i documenti che demmo a Berlusconi e devo dire abbiamo avuto una percentuale di individuazione del voto, perché conoscendo i nostri colleghi di partito, conoscendo i loro pensieri, le loro opinioni, abbiamo indovinato quasi al 100% quello che sarebbe accaduto, e siamo stati sempre molto attenti su questo versante. Abbiamo invitato alla prudenza, ma lo scontro tra Berlusconi e Fini, che sono stati in quella fase i capi dei falchi dei rispettivi partiti, come poi è emerso nel tempo, sì, sono proprio persone. Vabbè, insomma, non se la prende più di tanto per questa cosa qua. Ma non conoscono queste vicende. Dopodiché alcuni vogliono bruciare le tappe, si facciano conoscere, facciano, abbiamo fatto noi tutte le battaglie politiche. Chi è già oggi amministratore di una città pensi a far bene. Quando uno si fa eleggere un incarico non deve pensare all'incarico successivo, deve fare bene quello da cui, per quale gli elettori fanno politica, anche loro. Sì. Uno può procedere positivamente nel suo impegno politico se fa bene ciò che è stato chiamato a fare. Cioè non dovrebbero parlare di politica nazionale, uno come il sindaco di Pavia dovrebbe, non dovrebbe parlare di politica nazionale, secondo lei? No, deve uno che fa il sindaco. Vuole. Io dico semplicemente che chiunque di noi, ma questo è valso pure per me in tutti gli impegni che ho dovuto assolvere, quando uno ha una responsabilità deve fare bene quello che sta facendo. Se lo fa bene, poi potrà avere altre opportunità. A me è sempre capitato così, ho svolto varie funzioni, avendole svolte mediamente con buoni risultati, spesso sono stato chiamato a fare altre cose. Se uno fa male, si distrae o pensa soltanto ossessivamente alla propria carriera, il consiglio che do a tanti giovani, io mi occupo molto. Ma perché lei dice che pensano ossessivamente alla propria carriera? Perché oggi, rispetto a quando abbiamo iniziato a fare politica noi, c'è un contesto diverso. Io ho cominciato a fare politica da militante nelle scuole a 14, a 15 anni, sono diventato parlamentare 22 anni dopo e non ho cominciato a fare politica perché pensavo di fare il parlamentare o il dirigente o il ministro o il capogruppo. Erano anni molto difficili in cui si rischiava la vita e non era conveniente. Vabbè, lei faceva anche parte di un partito che non era nella politica nazionale, era poi marginato all'epoca. Era perseguitato, cioè la gente veniva uccisa, marginato. Se fossimo stati solo emarginati già sarebbe stato un bel vivere, eravamo perseguitati. Vabbè, questa è una generazione di giovani che hanno trovato un partito di governo da scalare, se vogliamo, e quindi fanno le loro, riflessioni. Si può vincere, si può perdere. Io che seguo molti giovani, insomma, che mi sono vicini, ho proprio questa attenzione ai giovani. Vorrebbero farsi largo, Gaspari, questo è evidente. Molti oggi hanno la possibilità di diventare parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, in età giovanissima, per loro capacità. Lei dice si accontentino di quello e poi pensino. No, voglio dire, spesso, non dico si accontentino, perché molti di questi giovani saranno nel futuro più bravi di noi e faranno cose migliori, me lo auguro sinceramente. Però, ecco, spesso sono portati a una visione troppo dinamica, pensano che subito il giorno dopo c'è un'altra cosa da fare. Invece la lezione della vita è che intanto uno faccia quello come lei sta conducendo una trasmissione. Se la condurrà bene farà altre cose nella vita. Se già pensa domani diventerò direttore non so di che cosa, finirà per far male il suo lavoro e non diventerà direttore di nulla. Cari formattatori, fate come Gaspari, fate carriera con calma nel partito, non abbiate fretta. Non è carriera, uno deve occuparsi di quello a cui viene chiamato dai direttori o dalle persone, non c'è la carriera. Vabbè, insomma, Gaspari, non si può negare che però ci sia un dibattito anche nel centrodestra, cioè nel centrosinistra, sulla questione delle primarie, del riformare il partito, del largo ai giovani. Io ho citato prima l'iniziativa di Pedica dell'Italia dei Valori, che è una petizione su Facebook per non votare chi è da più di 16 anni in Parlamento. Lei da quanti anni è in Parlamento? Ragioni pedica, però io forse diciamo che ci sarà 38 anni che è il capolista di questa lista che vuole fare nuove strategie politiche, pensi lei. Il problema, veda, è la qualità delle idee e la coerenza dei comportamenti. Dopodiché non è tanto la durata, c'è gente che c'è stata un giorno e si è fatta un nome, c'è gente che c'è stata 50 anni in politica e si è fatta solo un patrimonio. Questo è il problema, è il secondo caso che è il vero problema che dobbiamo eliminare. L'impegno, non la durata dell'impegno. Va bene, grazie, buona serata e buone vacanze a Maurizio Gaspari. Grazie. 18:42 800 24 0024, ascoltatori in attesa, abbiamo Alessio che ci chiama da Pistoia, buonasera. Buonasera, prego. Volevo raccontare una riflessione derivata da un'esperienza diretta. Io sono imprenditore, sto ridimensionando l'azienda e pur non avendo soldi in cassa mi trovo tasse da pagare. L'esistenza stessa di Equitalia è la prova che le tasse sono incostituzionali, cioè non sono proporzionali al reddito. Scusi, non ho capito, lei ha detto l'esistenza stessa di Equitalia è la prova che le tasse non sono costituzionali. Non sono, certo, perché non sono proporzionali al reddito come vorrebbe la Costituzione. Le aziende si trovano a dover pagare tasse su tasse ma non hanno soldi. E perché? In realtà non dovrebbe essere così, dovrebbe essere che le aziende danno allo Stato una parte dei soldi che hanno guadagnato. Sì, lei ha sentito per caso l'intervista dell'altra sera a Pisani che vuol fondare il partito Antiquitalia? Sarà un suo seguace? Probabilmente sì, anzi sicuramente sì. Ma che ne pensa del fatto che come testimonial si sia scelto, perché è il suo avvocato tra l'altro, uno come Maradona, un miliardario che ne ha fatte di tutti i colori, viziato, che ha dei debiti col fisco e che per questo diventa addirittura il testimonial della lotta a Equitalia? Non è una scelta azzeccatissima, secondo me ci sarebbero decine di migliaia di imprenditori più onesti che potrebbero calzare di più. Va bene, grazie Alessio da Pistoia, buona serata. A lei. Roberto D'Arieti, prego, buonasera. Buonasera. Senta, volevo concentrare l'attenzione sul fatto dei tagli per i comuni, non se ne parla, ma io sono un dipendente comunale che prima lavoravo in un comune piccolo e poi mi sono passato ad uno grande. Vi posso dire che i comuni piccoli, che sono migliaia in Italia, 8.000 comuni in Italia, di cui 2, 3.000 sono piccolissimi e sotto a 3.000 abitanti sono tantissimi comuni, sono organismi che secondo me non hanno più ragione di essere, devono essere accorpati, devono diventare almeno un'entità di 3.000, 5.000 abitanti, perché di solito sono montani, quindi dovrebbero per esempio raggruppare tutta la vallata di quella particolare zona, perché altrimenti così ci sono spese che si duplicano, sindaci, assessori, con commissioni di qua, commissioni di là, esperti di là, esperti di qua, cioè è una spesa che si duplica, si quadruplica in continuazione, quando e poi c'è un altro fatto, cioè che il comune piccolo non riesce a fare i servizi di qualità come uno grande, perché? Perché ha poche risorse, perché ha pochi dipendenti, perché devono fare le stesse cose. Per quello basta fare delle associazioni di gestione dei servizi. Basta, insomma, è quello che la strada che viene indicata e che in alcuni casi viene anche percorsa, che servirebbe a fare dei risparmi, insomma, indubbiamente su questo non c'è dubbio. Ma non ho capito, anche lei però si unisce al coro di quelli: ma volete abolire le province, ma il problema sono i comuni, cioè lasciamo stare le province e interveniamo sui comuni? No, oppure interveniamo su tutto? No, le province uguali vanno abolite, vanno raccorpate, vanno... Sì, d'accordo, però secondo me i migliaia e migliaia di comuni, sì, ma i comuni che hanno 800 abitanti, che hanno 1200 abitanti, che hanno il sindaco, gli assessori, le indennità, le commissioni, e i dipendenti, e gli uffici, e poi un comune ha una miriade di adempimenti da parte dello Stato che deve fare, cioè il comune piccolo è sempre inadempiente, non riesce a farli tutti. Va bene, grazie Roberto, grazie anche a lei da Rieti. Ci ha chiamato Mario da Lecce, buonasera, nei paraggi dell'Ilva. No, beh, proprio paraggi no. No, vabbè, insomma, un po' distante dall'Ilva. Senta, io onestamente ho un appello da fare al ministro Fornero, in poche parole. Non è che una persona normale, diciamo, fa gli appelli così tanto per fare, tanto per passatempo, no? Ma perché la riforma che ha fatto le pensioni, secondo me, è punitiva, specialmente nei confronti delle donne del Sud. E questo perché io ho mia moglie, che ha cominciato a lavorare, che aveva 19 anni, ha smesso quando ci siamo sposati, e successivamente, sul consiglio del sindacato, quindi il patronato, e dell'INPS, ci hanno consigliato a versare i contributi volontari, che sono stati regolarmente diciamo versati fino al 31 dicembre 89, data in cui ha completato quell'obbligo che era imposto all'epoca dalla legge se non voleva perdere i contributi. Ora, come può fare una riforma in cui traguardo raggiunto viene sconfessato perché per motivi economici, non si può ottemperare a quell'obbligo che lo Stato si era dato nei confronti della persona, no? Io vorrei capire se lei, praticamente poi c'è stata una circolare dell'INPS, la circolare numero 35. Sì Mario, però se parliamo di circolari non si capisce nulla. Non no, so, no, lei vuole... no, no, no, il suo caso l'ha raccontato, voleva intervenire anche su qualcosa. Mario, con tutto il rispetto del caso di sua moglie, ci interessa fino a un certo punto. Con ma tutto non è solo mia moglie, sono migliaia di donne sì, che sono in questa situazione. Ho capito, però le stavo chiedendo se ci sono argomenti di un pochino più attualità, perché questa è una cosa di cui abbiamo parlato per mesi, per settimane, fino a un po' di tempo fa. Adesso però ci fa tornare indietro. Ripeto, può essere interessante, però adesso siamo su altre questioni. Un pochino più di attualità, adesso, perché la televisione nostra non ne ha parlato proprio, ci hanno parlato degli esodati e di questi qua che sono stati esonerati completamente e gli dicono che non hanno diritto, cioè i 15 anni li ha persi. Ora io dico, una persona che ha studiato, perché sembra, io mi sono informato, sembra che è uno scienziato della materia, no? Come può fare una cosa del genere e non si degna nemmeno di emettere un comunicato in cui dice: io, in base alla legge, questo, in base alla Costituzione, ho il potere di annullare qualunque cosa abbiano fatto quelli che sono venuti prima di me. Perché non lo fa? Va bene, grazie Mario del suo appello, del suo invito. Massimo da Torino, buonasera. Sì, prego. Buonasera a lei. Senta, no, volevo solo dire in merito al discorso dell'Ilva, che è un discorso assolutamente molto complicato, quindi non ho sicuramente io la soluzione in tasca, anzi. No, l'unica cosa che così mi chiedo, no, come penso tante persone, come mai si arriva sempre a un punto di rottura e non si affrontano queste situazioni quando si dovrebbero affrontare. Cioè, questa storia va avanti da anni, nessun partito l'ha mai affrontata, nessun governo l'ha mai affrontata, ora sono tutti saltati, diciamo, un po' sul piedistallo con la... cercando di incolpare i giudici, di vedere i giudici, però il problema secondo me è che non si deve arrivare a questi punti di rottura. Io faccio un esempio, no? Mi è capitato di vedere un servizio, una serie in televisione della zona della Ruhr tedesca, è una zona dove c'erano centrali a carbone, quando si sono resi conto 15 anni fa, che era comunque un ciclo da terminare per l'inquinamento che comunque portava in tutta la zona, hanno riconvertito tutto, hanno praticamente ricreato un parco, una cosa bellissima, hanno incentivato il turismo, ora quella zona della Ruhr-Westfalia è una delle zone più visitate dell'Europa, no? Quindi voglio dire, perché non impariamo, i nostri amministratori, i nostri politici, perché non vanno all'estero e non cercano di avere una visione più aperta di quella che è la realtà del mondo? Perché secondo me è questo che manca, cioè la capacità delle nostre, sia politici ma assolutamente, ma anche amministratori locali, di andare in giro per il mondo e capire che cosa succede, cioè come nel mondo riescono a trovare soluzione a determinati problemi. Da noi non si fa questa cosa, cioè da noi si arriva al punto di rottura e poi poi succede, scoppia la bomba. Massimo, sulla questione dell'Ilva, cioè il caso che lei ha citato della Ruhr, che io non conosco del tutto, ma quindi lei auspica una dismissione, una chiusura? O secondo lei è possibile? Hanno riconvertito ricollocando a livello lavorativo tutte le persone che lavorano nelle miniere di carbone. Cioè, lei auspica proprio una chiusura dell'impianto siderurgico per fare altro, cose certo, legate al turismo, cultura, eccetera. Ma certo, ma anche perché, scusi, ma nel sud del mondo, ma quando mai ha senso aprire un'acciaieria nel sud del mondo? Cioè, nella Ruhr, se lei si va a vedere i siti, non c'è nulla, cioè, non c'era nulla a livello turismo. Hanno creato dei musei a cielo aperto, dei musei dentro le fabbriche di carbone con la storia di cosa facevano, cioè, hanno attirato addirittura turisti da tutta Europa. Cioè, ma noi non siamo capaci a fare queste cose, non siamo capaci. Allora io mi chiedo, ma con le amministrazioni che abbiamo, con i politici che abbiamo, dove vogliamo andare? Va bene, grazie Massimo, buona serata. Da Torino andiamo a Samuele, che ci chiama da Cagliari. Buonasera, io vorrei fare un appunto sulla dichiarazione che ha appena fatto Gasparri poco fa. A proposito di? A proposito del fatto che comunque noi siamo palesemente governati da una classe politica che non ha responsabilità, nel senso che Gasparri forse si dimentica che negli ultimi 20 anni è stato quello che ha governato, ed è la stessa persona che oggi dice a un 32enne che governa una città come Pavia che se fa bene le cose andrà avanti. Allora, Gasparri non ha fatto bene il suo lavoro come tanti altri politici di quella parte, cioè il centrodestra, io sono tra l'altro un elettore di centrodestra, negli ultimi 20 anni ha governato 16 anni. Allora, se noi abbiamo questo debito pubblico, se siamo nella situazione in cui siamo, qualcuno avrà una responsabilità. Questi non hanno responsabilità, non hanno il pudore. Perché Gasparri non ha pudore, perché nelle ultimi 20 anni, secondo lui ha fatto il lavoro bene, ma secondo me no, perché sennò non saremmo in questa situazione. E lui le direbbe che si è candidato e ha preso i voti. Ho capito, ma come ha detto lui, per il circo di Pavia, se si fa bene il proprio lavoro, lui, parole sue testuali, sì, questa persona andrà avanti, quindi farà, tra l'altro stiamo parlando di meritocrazia che non sappiamo nemmeno che cosa sia in Italia, comunque prendiamolo per buono, andrà avanti, ok? Quindi lui che per 20 anni ha governato ha fatto uno schifo insieme al PDL e a chi l'ha appoggiato insieme alla Lega, circondati di corruzione, circondati di ogni tipo di schifezza che ci può essere, perché si comprano la casa e non si sa chi la paga, lasciano una barca in un ormeggio in Sardegna per 4 anni, non sapevo che dovevo pagarla. Beh, tutte cose con cui Gasparri però non c'entra nulla, perché quello è una scaiola, l'altra non può imputare a Gasparri cose che ha fatto Scajola o Maroni. No, ma io non imputo. No, allora, adesso non per difendere Gasparri, è la classe politica, perché la classe politica in generale non ha la capacità di prendersi le proprie responsabilità, perché io non c'ero, non lo sapevo, non ci ho pensato. No, una cosa Samuele le do ragione, sul fatto, io infatti gliel'ho chiesto 2 o 3 volte a Gasparri, cioè perché il sindaco di Pavia non dovrebbe fare politica, perché non dovrebbe fare dichiarazioni sulla politica nazionale, sul PDL, sulle primarie, perché non dovrebbe dire la sua, visto che ha formato una mini corrente dentro il PDL di giovani formattatori, su come è stato gestito il partito, secondo loro, da Gasparri, Cicchito, La Russa, gente che ha un lungo corso parlamentare, e il fatto che ci voglia un ricambio, questo almeno da parte dei giovani è una necessità, ma credo che sia, io per esempio sono favorevole, sarei per mettere un limite massimo di partecipazioni alle legislature, due, un limite di anni, quindi per me Gasparri sarebbe già in pensione da tempo come politico, ma non per Gasparri, ma con lui D'Alema, con lui tanti altri, quindi su questo non sono d'accordo con lo stesso Gasparri, mi sembra quello che diceva anche lei. Sul resto poi è anche una questione di punti di vista politici. Samuele, non so se voleva aggiungere altro. Da Cagliari avete avvistato Maroni, no, che ha passato... sono a posto così, la ringrazio. Avete avvistato Maroni che ha passato l'estate in Sardegna? No, però ho saputo anche lì, cioè, dai ragazzi, ma io quando vado al cinema pago il biglietto, quando vado a teatro pago il biglietto, la benzina la faccio tutti i giorni, questi benzina non ne fanno, biglietti non ne devono comprare, come fanno a fare i nostri interessi queste persone? Questi non sanno quanto costa un chilo di pane, questi non sanno cosa vuol dire ogni tre mesi pagare 800 euro di IMSS per il versamento dei contributi, non sanno cosa vuol dire il 20 pagare le tasse, cioè è un mondo che gira alla rovescia questo, non tornano i conti. Grazie Samuele, grazie. Da Cagliari, Mario da Savona, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Eccoci qua. Io mi chiamo da Savona, che è una città, a proposito di Ilva, di coccherie, di carbone, anche Savona è una città purtroppo piagata dal carbone, sia come coccherie con quelle di Cairo Montenotte, sia come centrale termoelettrica a carbone a Vado Ligure. Ed è un problema che qua sentiamo molto e anche come informazione cerchiamo di seguire i fatti dell'Ilva. Ora, è emersa una cosa poco circolata poi tra le notizie dell'Ilva, e cioè che nel 2004 l'Ilva ha costituito in Lussemburgo una società Ilva International S.A., partecipata al 99,9% dall'Ilva, la restante percentuale data alle Parfinex lussemburghese, con un capitale di 164 milioni di euro, quando il capitale sociale dell'Ilva in Italia, se non sbaglio, è intorno al milione di euro. Ora, va bene tutto, ma visto che Lussemburgo è un posto strano, un paese a fiscalità agevolata, crocevia di tante altre società fiduciarie e partecipazioni che poi finiscono spesso anche nei paradisi molto più esotici. Allora, sarebbe bello capire, quando si parla di aiuti pubblici, dei 336 milioni di euro che devono finire per la bonifica, già altri parlano di cifre molto superiori, per quale motivo una società che fa bandiera della propria italianità, adesso che è in difficoltà giudiziarie, per quale motivo dal 2004 stava in Lussemburgo. Grazie Mario, dobbiamo fermarci qua perché c'è il giornale radio, torniamo più tardi, 800 24 00 24. La Zanzara. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati insieme fino alle 20.30 all'800 24 0024 per i vostri interventi, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it e poi su Facebook naturalmente. Adesso cominciamo con i titoli del TG3. Monti, nessun piano allo studio per tagliare l'IRPEF, prima va consolidato il risanamento, ma è sacrosanto puntare alla riduzione della pressione fiscale. L'opposizione tedesca attacca la Merkel, spende troppo per salvare l'euro, CDU e liberali contro Draghi, ha fatto della Banca Centrale Europea la banca dei debiti. Da oggi nuove norme per le ricette, i medici di base possono prescrivere solo il principio attivo del farmaco richiesto, che cosa cambia per il cittadino? Alessandria sull'orlo del crack dopo il buco di bilancio di 150 milioni di euro lasciato dall'ex sindaco. Aumento di tutte le imposte, a pagare sono i cittadini. Tensione e manifestazioni per l'Ilva, domani a Taranto vertice con i ministri, città blindata. Passera, evitare la chiusura senza ritorno, e c'è una chiazza d'olio in mare. L'ONU accusa Assad di crimini contro l'umanità, abusi anche da parte dei ribelli. Siria isolata nel mondo islamico e dall'Iran, l'unico appoggio. E l'asilo politico in ambasciata concesso dall'Ecuador ad Assange, l'uomo di Wikileaks, scatena l'ira di Londra e crisi diplomatica. Così dunque il TG3. Tra le dichiarazioni di oggi, in un'intervista a Klaus Davi, Micaela Biancofiore, deputata del PDL, parla del ritorno di Berlusconi in attesa della grande manifestazione annunciata da un'altra fedelissima, Daniela Santacchè, qualche giorno fa. A settembre ci sarà la grande manifestazione per, non ho capito se chiedere a Berlusconi di candidarsi, quindi una manifestazione popolare per fare questa richiesta, quindi saltando le primarie del PDL, oppure se una manifestazione nella quale direttamente Berlusconi annuncerà la sua candidatura. Micaela Biancofiore. Le posso dire cosa le vorrei fare io realmente? Vorrei stare vicino al Presidente e ricostruire insieme a lui, voto per voto, il suo consenso elettorale. Credo che questo sarebbe la cosa che mi premierebbe di più a livello personale ed umano. Poi Klaus Davi giustamente le fa una domanda a proposito della vita privata di Berlusconi, tanto per capire che aria tira tra appunto i fedelissimi del Cavaliere dopo tutto quello che è successo, e su una, così, su rapporti con l'ex moglie, incredibilmente Micaela Biancofiore dice sì, sarebbe bello che si rimettessero insieme, ma perché? Cosa c'entra? Per quale motivo? Tornare al passato per ricongiungere, così, per ricomporre il quadro familiare che non ha più senso dopo tutto quello che è successo. Ma sentite Micaela Biancofiore. Ma io anche non lo escludo, anzi, tutto sommato, insomma, potrebbe essere anche che come si è letto anche da qualche parte, che magari sarebbe veramente il piacere di tutti che ci fosse una riconciliazione matrimoniale. Certo, sul piano elettorale sarebbe una mossa incredibile, ma... insomma, sembra quantomeno complicato che questo possa accadere. E sempre tra le dichiarazioni di oggi, un caso che ha fatto un po' di discutere, quello del grillino Giovanni Favia, pescato anche lui a pagare le presenze in TV, in due TV locali dell'Emilia Romagna. Non era l'unico a dire la verità, però visto che da parte del Movimento 5 Stelle c'è, cioè, come dire, una sorta di diktat sul fatto di non andare ospiti in televisione perché non bisogna mettersi a confronto, perché non bisogna essere strumentalizzati, eccetera eccetera, beh, insomma, invece poi i messaggi politici passano anche attraverso la presenza TV a pagamento. Ma lui, Giovanni Favia, dice non c'è niente di strano, questa è una provocazione di Repubblica, era tutto alla luce del sole, non c'è niente di strano, e sentiamo. Parliamo circa di 200 euro al mese per un'ora in diretta, quindi non una trasmissione montata, dove l'unica cosa che fa il conduttore è passare le telefonate dei cittadini. E noi raccontiamo ai cittadini quello che facciamo in consiglio, quindi non è il teatrino tipo Vespa. E a dire la verità, nessun altro dei grillini se l'è presa con questa, diciamo, essere venuti meno ad una prescrizione del Movimento, quello di non andare in televisione, ma evidentemente è una prescrizione che vale fino a un certo punto. 800 24 0024, Piero chiama da Lodi, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io vorrei disquisire un attimo sul discorso Ilva, raccontando quella che è una mia esperienza passata che mi ha segnato, e ancora adesso ci penso, ma soprattutto vedendo in televisione i fatti dell'Ilva ripenso a quanto è accaduto. Le spiego subito. A Pieve Fissiraga esiste un'azienda che si chiama Viscolube, visto che non bisogna fare nomi e cognomi io la faccio apertamente. È un'azienda che lavora oli esausti praticamente, di proprietà al 33% dell'Eni. Questa azienda da tempo, cioè praticamente negli anni scorsi, ha avuto delle uscite di gas e probabilmente di diossine, intervenuti i pompieri, ha sempre messo tutto praticamente a tacere, puzze e nubi che i cittadini di Pieve Fissiraga e dintorni di Conegliano Laudense e di Lodi stesso non accettavano, almeno una parte di questi cittadini. Abbiamo fatto un comitato, ci siamo messi in una trentina, una quarantina, per cercare di capire cosa si potesse fare. Ed ecco che cosa abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che le visite dell'ARPA, cioè ARPA è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente praticamente, che deve intervenire in casi in cui le uscite di gas diventano nocive, venivano assolutamente telefonate prima, cioè il concetto prima è ti avviso, poi ti vengo a verificare le emissioni, non un campionamento in continuo, ma soltanto delle cose così a campione. Poi abbiamo anche scoperto, andando avanti, che non era solo l'ARPA che praticamente andava a verificare i discorsi delle uscite, ma era una società che dava all'ARPA stessa le campionature di gas che uscivano da questa azienda, da questa fabbrica. questa società, udite udite, perché questa è la cosa che è veramente assurda, questa società che doveva controllare la Viscolube era pagata dalla Viscolube di proprietà della Viscolube, il 51%, noi siamo andati in tribunale a verificare queste cose, il 51% di questa società era praticamente di proprietà dell'azienda, cioè chi doveva controllare l'azienda era controllata dall'azienda stessa. Allora io mi dico, in Italia noi dobbiamo cambiare le regole del gioco, perché tra l'altro questa azienda è stata 2 anni fa è stata messa tra le aziende a rischio di incidente rilevante, tra le 279 aziende in Lombardia che sono considerate a rischio di incidente rilevante, prima non lo era e 2-3 anni fa è passata in questo modo. Io quindi mi dico, qui noi dobbiamo cambiare sicuramente le regole, certamente ci vuole una volontà politica che in Italia non esiste, ma dobbiamo, viva Dio, cambiare la nostra cultura mafiosa, per cui a un certo punto l'avidità di denaro e la corruzione la fanno da padrone e la salute dei cittadini diventa un optional. Ho detto tutto e vi ringrazio per avermi ospitato, ma volevo sentire anche lei cosa mi dice. Ecco. Grazie Piero, cosa vuole che le dica? È una storia di cui non sapevo assolutamente nulla, lei l'ha illustrata molto chiaramente, assumendosi anche naturalmente la responsabilità di quello che diceva. E certo che può essere paradigmatica di situazioni che non vanno come dovrebbero, di conflitti di interessi, chi controlla è controllato dal controllore. Mi è venuto in mente il caso delle agenzie di rating che sono pagate dalle società che devono essere giudicate, no? Viviamo un po' a volte in questi cortocircuiti. Grazie a Piero. Adesso poi naturalmente andremo avanti con gli ospiti, però tra poco con gli ascoltatori, tra poco invece un altro ospite. Introdotto così perché abbiamo deciso di dedicare questa musica ogni volta che si lotta per sopravvivere, si lotta per non morire. Un'altra missione impossibile è salvare la provincia di Sondrio. E allora salutiamo il presidente della provincia di Sondrio, Massimo Sertori. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Abbiamo letto che è pronto, c'è uno studio legale a cui lei ha fatto ricorso, pagando naturalmente, per fare ricorso a sua volta al TAR perché avete trovato un cavillo, credo da qualche parte, non è la prima volta che si parla di Sondrio per questo, perché evidentemente tutti vogliono accorparvi, ma non siete gli unici insomma. E però a voi questo accorpamento non vi sta bene. Noi la settimana scorsa abbiamo sentito Mimmo Turano, presidente della provincia di Trapani, che per difendere la sua provincia è arrivato a dire delle cose incredibili, poi magari gliele facciamo anche sentire e le chiederò anche come si sente essere in compagnia, lei che è della Lega, del profondo nord, in compagnia su questa battaglia con situazioni come quella di Trapani. Però prima di tutto ci spieghi, facendo tutti i distinguo del caso, perché fate ricorso? Ma innanzitutto noi facciamo ricorso perché il titolo quinto della Costituzione prevede che i territori montani, la nostra provincia è un territorio interamente montano, una delle due province interamente montane di tutta Italia, perché sono Sondrio e Belluno. Ebbene, questa materia è di competenza della Regione e non dello Stato. Non lo dico solo io, l'ha detto addirittura l'ufficio studio alla Camera, ma evidentemente questa questione non è stata presa in considerazione. Siccome il Consiglio dei Ministri ha fatto un provvedimento stabilendo i criteri con i quali si decide quali province devono sopravvivere e quali no, sì, ed è quindi un atto amministrativo come tale, noi possiamo fare ricorso. Però mi scusi, provo a ragionare con la logica, non conosco le norme che lei conoscerà sicuramente meglio di me, però voi dite un atto dello Stato, però mi pare che in questo caso il governo abbia stabilito dei criteri, lasciando poi in sede regionale il fatto di decidere come procedere a questi accorpamenti entro la fine dell'anno. Non è proprio così, nel senso che lo Stato ha stabilito dei criteri che sono perché una provincia continua a esserci, deve avere almeno 2.500 km² di superficie e almeno 350.000 abitanti. Se tu regione stabilisci come riorganizzare le province sul tuo territorio, posto che però questi due parametri sono imprescindibili. Beh, ma i parametri bisognava che qualcuno li decidesse, se venivano lasciati alle regioni ognuno faceva di testa sua, sarebbe stato un caos. Un esempio che sarà sicuramente casuale, sì. Deve sapere che la provincia di Ferrara, che è la stessa provincia di Franceschini, ha guarda caso 2.600 km² di superficie e 360.000 abitanti, ma ovviamente è un caso che i parametri siano 2.500 e 350.000. Voi quanti abitanti avete come provincia? Noi abbiamo 183.000 abitanti e un'estensione territoriale di 3.200 km quadrati, cioè la superficie della Valle d'Aosta, così almeno inquadrate bene sì. come il nostro territorio. Però sul piano degli abitanti, anche se non avessero tenuto a mente Ferrara, ma un'altra provincia, sareste stati comunque abbondantemente sotto. Io però quello che vorrei chiederle è anche questo, cioè sul provvedimento, posto che sappiamo la Lega era contraria all'accorpamento delle province, adesso poi non lo so lei in particolare, sul fatto in generale, sul provvedimento generale di ridurre le province per possibilmente, si augurano gli italiani, ridurre le spese, siete d'accordo oppure e quindi è solo una questione diciamo di scelta? Oppure la mia posizione, che è anche la posizione della Lega, è assolutamente d'accordo su una riorganizzazione delle province, così come peraltro io sarei d'accordo su una riorganizzazione anche delle regioni, pensi che ci sono regioni di 350.000 abitanti, così come io sono d'accordo su una riorganizzazione direi sostanziale dello Stato e delle spese che lo Stato fa. Il tema è che una provincia o serve, nel senso che serve i cittadini, e io credo di sì, perlomeno una provincia come quella di Sondrio, di sicuro, del resto non è un caso che è stata istituita nel 1815, cioè prima dell'Unità d'Italia, ma soprattutto con questa riorganizzazione delle province, sempre dati dall'Ufficio Studi del Senato, in questo caso, è ritenuta materia ordinamentale. Questo significa che non c'è nessun tipo di risparmio, anzi, molto probabilmente ci sarà un aumento dei costi. E le faccio anche un esempio: lei deve sapere che dal 1990 ad oggi, Regione Lombardia, perché poi non tutte le province hanno le stesse competenze, le stesse deleghe, ma le faccio l'esempio della mia regione, ha delegato alle province qualcosa come 150 deleghe. Se aboliamo le province o eliminiamo le province, queste deleghe dovranno essere date ai comuni o comunque dovrà trattenerle la regione. E questo è certificato. Però mi scusi, non vorrei giocare con le parole, però noi non aboliamo le province, almeno noi, il governo vuole accorpare, cioè in Lombardia ci sono 9 province. Questo provvedimento prevede un accorpamento delle province. E quindi le funzioni verranno poi delegate le stesse a queste minori province rispetto a quelle che ci sono adesso. Come non è proprio così? Non è proprio così, nel senso che il provvedimento prevede anche una ridistribuzione delle deleghe. E quindi Regione Lombardia, ad esempio, questo il decreto che poi è stato trasformato in legge lo dice, in 90 giorni dovrebbe addirittura azzerare le deleghe che ha dato alle province e stabilire quelle che rimarranno alle province. Viene riaperta la facoltà della regione di dare queste deleghe alle province, e una volta che sono state riaccorpate, con un aumento dei costi, ovviamente. Perché un aumento dei costi? Beh, ma è facilmente capibile, perché intanto il personale delle province che va alle regioni costa di più del 20%, e quindi questo è un dato. E dopodiché i comuni, lei prende il mio territorio, ci sono 78 comuni, spesso piccoli, piccolissimi, arrampicati sulle montagne, di 1.200-2.000 abitanti, e come si potrà pensare di dare delle deleghe comprensoriali a comuni così piccoli, che peraltro sono gli stessi che mantengono la montagna? Perché poi c'è anche questo da dire, ma questo è il mio caso specifico, ma ogni caso deve essere analizzato per quello che è. Io sono assolutamente favorevole a un riordino delle province, ma fatto in modo logico e razionale, cosa che peraltro stiamo anche facendo attraverso l'Unione delle Province. Però è questo che io non capisco, esatto, è questo, perché non c'è spazio in sede regionale, perché su questo lei mi dà torto, ma secondo me ha torto lei, cioè c'è una sede regionale dove sarete presenti anche voi province, o quantomeno in regione, per decidere poi quali saranno gli accorpamenti, le deleghe eccetera, cioè l'imposizione è solo sui criteri, poi però i confini geografici della nuova provincia, che potrebbe essere una Sondrio allargata, mettiamo così, li stabilirete voi, quindi c'è un margine per lavorare su questo. Allora guarda, faccio l'esempio concreto, sulla base di questi parametri che ha definito il governo, ad esempio la provincia di Sondrio dovrebbe accorparsi con la provincia di Lecco, posto che non sarà più la provincia di Sondrio ma sarà la provincia di Lecco, ma questo è il minore dei problemi. Ma lei capisce che Lecco, che ha tutta una serie di tematiche, di problemi che sono legati soprattutto alla presenza del lago di Como e quant'altro, ha una realtà territoriale che non è omogenea, ad esempio con la Valtellina, che è un territorio interamente montano di 3.200 km quadrati, che ha paesi che si trovano a 2.500 metri sotto il livello del mare. Quindi è chiaro che ci sono situazioni molto diverse, molto diverse. Insomma, torna al discorso della specificità montana. Noi abbiamo recuperato, Sertorio, una dichiarazione di quasi un anno fa di Alessandro Della Vedova, che è il potestà di aspetti che me lo sono perso di Poschivio, Poschiavo, non sono pratico della zona, in Svizzera, che dice, insomma, loro vi accoglierebbero volentieri perché lei aveva minacciato, ma ce ne andiamo in Svizzera. Voi siete appetibili, vi vogliono, quindi lei vincerà la sua battaglia, di questo è convinto? Ma guardi, noi siamo sempre stati terra di confine, abbiamo ottimi rapporti con gli amici svizzeri, che peraltro per noi sono un esempio, nel senso che è una confederazione. Magari l'Italia guardasse un po' la Svizzera e come è organizzata la Svizzera, probabilmente avremmo molti meno problemi anche noi. Quindi però è una butade, no? Cioè non è pensabile che questo possa accadere. Questo, come lei sa, non è fattibile anche per, costituzionalmente. Quindi, detto questo, i nostri rapporti con gli amici svizzeri sono ottimi. Sì. Le dico, oh, guardi, se io parlo con il podestà di Poschiavo il mio dialetto, ci comprendiamo benissimo. Però lei aveva ritirato fuori questa cosa, cioè cos'è, un argomento per fare un po' di pressione, un argomento elettorale, per far capire che, insomma, che si va contro Roma, contro il centralismo, perché no, l'ha detto lei, non è costituzionale, non si può fare, no, andare con la Svizzera. Sappiamo che non si può fare, ripeto, però mi piacerebbe però che lo Stato italiano prendesse qualche esempio dallo Stato svedico, soprattutto per la confermazione, per come è confermato lo Stato. Vabbè, questo penso che molti italiani auspicano che ci possa essere qualcosa di svizzero in noi, c'è molto poco. Mi ha citato prima l'amico podestà di Poschiavo, per esempio. Il Consiglio Comunale, che loro chiamano Parlamento, ad esempio ogni anno stabilisce quant'è il costo dell'energia elettrica. Provi un po' a pensare se in Italia fosse possibile una cosa del genere. Per noi è una cosa che sembra quasi fantastica, assurda, impossibile da fare. Eppure le dico che il sindaco di una piccolo paese come Poschiavo, che ha 3.000 abitanti, tra le varie competenze che ha, anche quello di stabilire quanto costerà l'energia elettrica, ma soprattutto le risorse che i cittadini pagano restano prima di tutto in comune e poi, risolto tutte le questioni, i problemi del comune, residualmente vanno alla Confederazione, vanno a Berna. E quindi c'è un processo esattamente contrario rispetto a quello che succede in Italia, dove i soldi e le tasse pagate sui territori prima vanno a Roma e poi Roma stabilisce e decide come ridistribuirli sul territorio. Senta, l'ultima solo di invertire i fattori. L'ultima cosa che le voglio chiedere, settore, è questa. Maroni ha annunciato con un'intervista a Repubblica che ci sarà un'iniziativa per un referendum. La Lega vuole accogliere le firme per una legge di iniziativa popolare per fare un referendum un po' complicata, consultivo, per chiedere agli italiani se vogliono tornare alla lira, cioè se vogliono uscire dall'euro. Si farà questo referendum? Lei è per uscire dall'euro? Questo non mi sembra che l'abbia messo proprio così il nostro segretario generale. Ha detto un referendum per fare una consultazione, quindi sì, un referendum consultivo, questo ho detto. Consultivo, per sentire sì. Per chiedere agli italiani cosa ne pensano. Esatto, chiedere agli italiani cosa pensano, ma soprattutto anche in relazione al fatto che molto probabilmente quando a suo tempo, 10 anni fa, sempre la Lega diceva che forse era il caso che una parte dell'Italia, visto che aveva le caratteristiche, entrasse nell'euro, un'altra parte magari aspettava un attimo, e evidentemente sono passati 10 anni, ma poi tutti i torti chi diceva questo non li aveva. No? Io però questo non l'ho capito, cosa c'entra il referendum nazionale sul gradimento dell'euro col fatto che solo l'Italia del Nord e Maroni auspica che possa rientrare nell'euro, cioè sarebbe l'Italia del centro-sud che esce dall'euro, è una follia. Mi pare abbastanza evidente, guardi, questo è il problema secondo me fondamentale dell'Italia. Fin tanto che noi facciamo finta che tutte le situazioni sono uguali, non riusciremo a mai a trovare le soluzioni. No, ma le situazioni non saranno uguali, ma non capisco la soluzione di questo, quale sarebbe? Un'Italia del Nord che entra nell'euro, questo ha scritto Maroni su Repubblica, cioè diciamo parole che ci sono su delle regioni, soprattutto quelle del nord, che hanno certamente requisiti e caratteristiche per poter far entrare in un'economia forte come l'euro. Territori che queste caratteristiche non le hanno. Detto questo, ammettiamo anche che sia vero, è praticabile una divisione a questo punto di vista, cioè l'Italia del sud con la lira e il nord con l'euro? Le sembra praticabile? Guardi, io sono un semplice presidente di provincia di Sondra, si figuri. Ecco, non ne sappiamo niente nessuno di questa materia. Va bene, fermiamoci qua. Grazie, buona serata. Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio. Buona serata anche a voi. Mission Impossible, la missione di salvare le province. Questa era Sondrio, ma insomma l'altra settimana abbiamo sentito Trapani, Mimmo Turano. Ce ne sono di province che tentano, lottano per sopravvivere, per non essere accorpate. Io fra l'altro vengo da una provincia che dovrebbe essere accorpata con una provincia gemella odiata, odiatissima, no? Pisa e Livorno, per cui però che dobbiamo fare? Così sarà il nostro futuro, accorpati. 800 24 0024, Mario da Biella, buonasera. Buonasera, la ringrazio per l'ospitalità. A proposito della spending review, ma è quello che io non riesco a capire, le pongo anche la domanda, cioè come mai sembra quasi che ci sia un alone di mistero sulla Corte dei Conti? La Corte dei Conti emette delle segnalazioni, non credo delle vere e proprie sentenze, però sono puntualissimi, attentissimi ad ogni spesa e per quello che ne so hanno anche la possibilità di incaricare la Guardia di Finanza di approfondire o di accertare delle cose. Come mai non vengono rese pubbliche le segnalazioni dalla Corte dei Conti? Perché proprio a proposito di spending review, lì si, scoperchiando quella pentola si saprebbe veramente tutto lo spreco che avviene nel Paese, perché mi creda che sono attenti. Ma quale pentola? Scusi, anche competenti. Anche sì, competenti. Quale pentola le auspica che venga scoperchiata? Loro operano a 360 gradi, cioè soprattutto da parte delle spese folli degli enti pubblici. La Corte dei Conti, lei dice, ma la Corte dei Conti certo fa dei bilanci ogni anno, fa delle analisi approfonditissime nelle quali vengono individuati anche gli aspetti di spesa pubblica e improduttiva, poi però restano lettera morta, è quello il problema. Ma io non riesco a capire, dovrebbero quantomeno questo organismo potenziarlo, perché mi creda che scendono veramente nei dettagli più minuti, però probabilmente non avendo potere esecutivo, penso che... No, infatti è quello, hanno solo un potere diciamo di analisi in questo senso. Grazie Mario, perché la Corte dei Conti sovrintende ai costi delle leggi, quindi insomma è un meccanismo complesso, ma non hanno un potere assolutamente esecutivo, è così, insomma dobbiamo prenderne atto. Gianni da Treviso, buonasera. Salve, buonasera. Prego. Io volevo fare un intervento per quanto riguarda Gasparri, l'intervento di Gasparri, dove diceva che avrebbe chiesto un'interpellanza parlamentare sulla questione dei due colleghi che sono andati a trovare i mafiosi. E pensavo che in un momento come questo, penso che i parlamentari dovrebbero occuparsi di altre, di cose più importanti. Ma lei si riferisce a Gasparri o a Alfano e Lumia? Cioè chi è no, che dovrebbe occuparsi di altro? Mi riferisco al fatto che che Gasparri chiederà un'interpellanza, perfetto, sì. per discutere su questa questione e quindi inchiodare 600 parlamentari a parlare di una questione che secondo me in questo momento è di lana caprina, perché dovrebbero occuparsi di altro, visto il momento che sta passando la nazione. Poi per quanto riguarda Ilva, io penso che Ilva sia l'ennesimo caso del fatto che in Italia purtroppo non paga mai nessuno, nel senso, se è vero che sono stati fatti, ci sono stati degli accertamenti che hanno tirato fuori questioni gravi su inquinamento e Ilva non ha ottemperato alle prescrizioni che gli erano state date, arrivati a questo punto l'unica cosa da fare è prendere i dirigenti, buttarli dentro una cella e buttare le chiavi, perché è chiaro che non hanno ottemperato i loro doveri. Poi si potrebbe diminuire un po' la produzione in modo da abbattere un po' l'inquinamento e dare dei tempi certi entro i quali cercare di rientrare nel range di inquinamento, diciamo, quindi in modo che ci sia meno impatto ambientale. Ecco tutto. Sì, qua. Sì, grazie anche a lei, Gianni. Dario da Milano, buonasera. Poi tra poco chiameremo in ballo anche il nostro prossimo ospite, già annunciato. Dario, prego. Buonasera, vorrei tornare un attimo sulla vicenda Ilva e Taranto. Io per lavoro mi occupo di sicurezza di sostanze chimiche, quindi conosco un po', diciamo, la materia. E in questi anni ho visto le associazioni ambientaliste, che sono molte e sono anche molto potenti sotto certi aspetti in Italia, parlo di Greenpeace, parlo degli Amici della Terra, parlo di altri, fare una serie di campagne su argomenti che naturalmente a volte sono condivisibili e altre volte sono, diciamo, che hanno degli obiettivi che possono essere quantomeno discutibili. Queste campagne chiaramente sono fatte in maniera da creare visibilità a queste organizzazioni, tant'è vero che si vedono attivisti che girano, non so, nel centro di Milano o in altre città. E di fronte a un caso come quello dell'Ilva, così eclatante, insomma, non è da oggi che l'Ilva inquina a Taranto, non è da oggi che ci sono delle case che sono vicinissime degli impianti pericolosi. Si sono distratte un attimo, oppure la salute degli operai dell'Ilva o dei cittadini di Taranto è meno importante o fa meno visibilità, no? Ma perché lei dice, dice che si sono distratte? Perché lei pensa che non si siano... Non ho mai visto queste associazioni occuparsi di situazioni industriali a rischio o potenzialmente a rischio, come l'Ilva di Taranto, ma come ce ne sono altre in Italia. Io vengo sono originario di Piombino, no? So Piombino. Piombino è un'altra realtà in cui le case sono attaccate alle acciaierie. Ora sì. Io non sto dicendo che l'Ilva di Piombino inquina come quella di Taranto, sto però dicendo che ci sono molte situazioni a rischio che non fanno nessuna notizia, perché non sono visibili. Insomma, gli ambientalisti sono un po' distratti su questi argomenti. Ma l'Ilva è gigante, quindi di visibilità gliene avrebbe potuta dare, secondo il suo ragionamento, quindi non sarebbe quello il motivo per cui si sarebbero distratti, sarebbe allora qualcos'altro. Perché lei ha un'ipotesi? No, non ho un'ipotesi, però credo che ci siano degli obiettivi che sono, come dire, più facilmente vendibili, no? Quando si è fatta la campagna contro i sacchetti di plastica, questo era un obiettivo comprensibile da tutti quanti, insomma, vedevano il sacchetto di plastica ingerito dal delfino su internet, tutta una serie di una comunicazione molto così d'impatto. E mi sa che l'Ilva di Taranto non avrebbe avuto lo stesso impatto, per questo forse è stata un pochino evitata. Ecco. Grazie Dario, 800 24 0024, continuate a chiamare per i vostri interventi in diretta. Figli delle Stelle, per salutare il candidato del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, buonasera. Buonasera a tutti. Prima di tutto ho detto bene Cancelleri, perché ho visto che qualche giornale scriveva come il ministro dell'Interno, Cancellieri, no, Cancelleri. No, esatto, grazie. Ecco, cominciamo a non sbagliare il nome, perché poi diventa tutto più difficile. Allora, eccoci qua. Prima di tutto le vorrei chiedere, abbiamo sentito in questi giorni Miccichè e Crocetta, lei è il terzo, visto che tra due mesi si vota, insomma, poi c'è un certo interesse attorno alla candidatura, a qualunque candidatura del Movimento 5 Stelle dopo il grande exploit di Parma. Ora, il Sud credo che sia più difficile da espugnare che non il Centro-Nord, perché penso che proprio il Movimento abbia meno potenzialità, almeno i sondaggi questo sembrano dire. L'elettorato medio forse si sposa più con una fotografia di un cittadino del Centro-Nord. Questo però ce lo dirà lei. Intanto, Cancelleri, le vorrei chiedere come siete arrivati a questa candidatura, perché anche questa è una cosa che mi incuriosisce. C'è una decisione che spetta a chi spetta? A Grillo o spetta a voi dell'isola? Allora, Grillo ovviamente... Credo che lo abbia saputo in questi giorni, che ha probabilmente ha una richiesta di certificazione per l'utilizzo del logo di Giga. Non ne sapeva niente prima, perché noi è dal 9 di giugno che in maniera molto democratica abbiamo cercato di trovare un metodo che fosse il migliore possibile per scegliere i migliori cittadini. Che noi abbiamo un motto, che noi non abbiamo aperto alla società civile, perché noi siamo la società civile. Ed è una differenza di sostanza che abbiamo voluto rendere proprio in forma tangibile proprio nella proposta delle candidature. Quindi il 9 di giugno a Casa Insetta, in una assemblea partecipata da circa 600 persone, abbiamo deciso i criteri che doveva rispettare un candidato, quindi i requisiti che doveva avere per presentare la propria candidatura, ed erano ovviamente quelli della massima degrita morale, quindi nessuna condanna, nessun carico pendente, nessuna iscrizione al registro degli indagati. Quindi nemmeno essere indagati? Sì, no, neanche. Abbiamo voluto proprio metterci il carico su questa cosa, perché sì, chiaramente siamo una terra che spesso viene affiliata alla parola mafia. Sì. Siccome abbiamo questo carico, perché veniamo da due governi regionali che si sono interrotti prima del loro scadere naturale, per lo stesso motivo, la mafia. Allora, lei sa che sì, avrà visto che anche Crocetta, candidato del PD e dell'UDC, ha proposto un codice etico, non so se venendo dietro a voi o no, per evitare che gli indagati siano candidabili. Quindi diciamo, su questa cosa siete in linea, le fa piacere? A noi fa piacere quando realmente poi alla fine queste cose che dicono i partiti poi diventano fatti, quando vanno nelle direzioni giuste. Questa potrebbe andare nella direzione giusta, il problema è che poi si dovrebbe fare i conti con determinate situazioni. Non si fa da Crocetta candidato dell'antimafia, del salotto buono all'antimafia, candidato alla presidenza della regione siciliana insieme con il PD, con l'UDC, che ha ovviamente un trascorso in Sicilia che non lo dobbiamo raccontare noi, adesso sono alla luce di tutti, e in più sta all'interno dello stesso partito con persone che del PD siciliano che sono abbastanza discutibili, come potrebbero essere ad esempio Chiesa Fulli o altre persone. Sembra che le cose stridano. Noi vogliamo dare un segnale invece diverso, vogliamo dire noi siamo così, ma siamo così a prescindere dalla legge. Cioè, se per noi non ci fosse nessun candidato in Parlamento regionale, noi già candidiamo persone che non sono candidate. Non aspettiamo la legge per dire ok, allora non ne mettiamo più. La stessa cosa per i rimborsi elettorali, sì, non ne prendiamo, a prescindere da una legge che ci sia o non ci sia. Quindi i partiti farebbero. Quindi lei ha detto anche che il Movimento 5 Stelle, che è completamente diverso. Ha detto prima anche di che proclamare sì, qualcosa, cominciarlo a fare. Sì, ha detto anche che come primo provvedimento lei vorrebbe abolire le auto blu e poi togliere, diminuire lo stipendio degli onorevoli, così si chiamano, siciliani, e in ogni caso voi non andrete oltre uno stipendio di 2.500 euro, è così? Sì, sì, no, su questa cosa dei soldi siamo, allora noi partiamo da chiaramente tipo da un'idea di base, che è quella che se alla politica togliamo i soldi, la politica diventa di nuovo passione, allegria, modo di partecipare assieme con gli altri alla vita pubblica. Se ci sono i soldi, purtroppo questa cosa svanisce, ma svanisce per un motivo troppo semplice: le persone non sono abituate a maneggiare tantissimi soldi e quindi per la fine si rendono causa praticamente di un sistema corrotto e sono insieme a sindaci con causa di questa cosa. Allora dobbiamo toglierli e noi abbiamo deciso di mettere 2.500 euro, che è una grossissima fetta di torta su qualunque piatto, per i deputati regionali, e poi rifiutare tutti i privilegi aggiuntivi che sono i vitalizi, che sono gli assegni di fine mandato, le diarie e tutto il resto. Perché crediamo che si può fare politica veramente senza soldi pubblici, ma sfruttandoli al meglio invece, quei pochi che ci sono, propagandando le idee, che sono la cosa più meravigliosa che abbiamo ed è anche gratuita. Il discorso delle biciclette ovviamente era una battuta che ho fatto ad un giornalista. Sì, l'auto blu, lei vuole dare le biciclette al posto dell'auto blu. Sì. Sì, no, vi dico, era lì una battuta, però se io divento presidente della regione io cammino in bici, cioè non voglio l'auto blu, ho detto anche che non voglio neanche il titolo di onorevole, perché per me onorevoli sono quelle persone che la mattina si alzano molto presto per andare a lavorare in maniera onesta e dignitosa e portano a casa il pranzo per tutti i figli e gli permettono di studiare. Queste sono le persone onorevoli, non sono sicuramente chi guadagna 20.000 euro al mese e poi magari fra brogli, reati vari, istituzioni comunque apre le braccia quando i cittadini invece stanno agonizzando come in questo momento. Senta, chi guadagna 20.000 euro al mese non può sicuramente sì, pensare ai problemi di chi ne guadagna 800, perché proprio mentalmente non ce la fa. Lei ha detto che correte per vincere, cioè ha fiducia, anche se i sondaggi non vi danno altissimi, e poi ha detto che si ispira a Bob Kennedy, cioè lei vola alto, è molto alto. No, ma guarda, io mi ispiro proprio che io ho semplicemente detto che è una delle frasi che mi ha illuminato nella mia vita, è una frase di Bob Kennedy, è un discorso più che una frase, che è quello che ha fatto all'università, davanti agli studenti universitari, parlando del PIL. E quella è una frase che sottoscrivo ogni giorno della mia vita in qualunque azione che faccio, da quando vado a fare la spesa al supermercato a quando sorrido ai miei colleghi di lavoro. Cioè, il PIL è la politica in questo momento preciso, e lo diceva lui già tantissimi anni fa, e se è ancora attuale, purtroppo questo è un male planetario che abbiamo. Il PIL e la politica si ispirano soltanto a tutte quelle cose per cui la vita non vale la pena di essere vissuta, e invece non si preoccupano dei nostri figli, dei sorrisi dei nostri figli, di migliorare la qualità della nostra vita, della possibilità di andare a lavorare in maniera serena, la possibilità di guardare la propria moglie negli occhi ogni giorno e avere la serenità comunque di una vita tranquilla, economicamente agiata e tutto il resto. No, il PIL invece che cosa fa? Si occupa di tutto quello che si occupa delle guerre, si occupa delle pistole, si occupa degli allarmi per non far entrare i ladri nella nostra casa. Quello è un discorso fantastico che io veramente dico a tutti, andatelo a sentire almeno una volta, perché detto da quella persona in quella posizione, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è stato un discorso molto bello. Vabbè, sì, molto è un celebre discorso che poi ha segnato tutta la storia anche della decrescita, eccetera. Senta, Cancelleri, l'ultima volta che ha sentito Beppe Grillo? Gennaio 2010. Addirittura, cioè due anni e mezzo fa. Perché a differenza di quello che dicono tutti, che ci pressa, ci dice cosa fare, ci non dice i programmi, ci dice chi sono i candidati, assolutamente non è vero, perché in realtà ci piace molto Casabianca, poi alla fine è una persona che sta molto a ascoltare, e da questo punto di vista. Quindi l'ultima volta che Beppe Grillo l'ha ascoltata, si parla del gennaio 2010. Cioè adesso nel 2010 una riunione regionale durante il suo tour, credo l'ultimo reset, quello del 2010, sì. Dove siamo stati assieme in una riunione regionale con gli attivisti siciliani. E il famoso Casaleggio, che da molti viene indicato come l'eminenza grigia, no? che è esperto della rete, che condizionerebbe anche Beppe Grillo, quello lei l'ha visto, l'ha conosciuto, l'ha sentito? E allora, Casaleggio io l'ho conosciuto a Roma, al Cozza Dei, credo. Abbiamo scambiato 30 secondi di parole, ci siamo scambiati, diciamo, delle opinioni su come stava andando la giornata. Però poi in generale io questa persona non l'ho mai... Non l'ha più sentita. Cioè, ma lei pensa che sia che abbia questo ruolo così importante, strategico, eccessivo secondo alcuni, che comanda solo Casaleggio, per esempio sulla vicenda Parma, non so se ha seguito, Pizzarotti, il sindaco di Parma, che ha dovuto rinunciare a coinvolgere una persona perché... Ma io credo che Federico Pizzarotti sappia quello che sta facendo in questo momento, sì. Ma io non lo vedo, i giornali lo dipingono come una persona, in questo momento un'amministrazione di Parma entrata al panico delle scelte, a me sembra invece che sia una persona che abbia i piedi molto pieni per terra, ha un debito comunale altissimo a quale fare fronte, e ovviamente si sta riorganizzando chiedendo ai cittadini quali sono le mosse migliori da fare. Senta, a parte Pizzarotti, che è la risposta diplomatica, l'ultima cosa che le voglio chiedere in un minuto, poi dobbiamo fermarci, alleanze post-elettorali ne farete per niente, oppure starete a vedere, siete aperti a 360 gradi, oppure a chi guardate? Ovviamente hai fatto detto bene, post-elettorali, perché pre-elettorali non se ne parla minimamente, ne andiamo da soli, abbiamo la nostra linea e tutto il resto. Alleanze post-elettorali, io non le chiamerei alleanze. Le idee sono giuste oppure sbagliate, non sono idee di destra e di sinistra, non esistono, non ti possono pensare in questa maniera. Le idee sono giuste o sbagliate, noi da cittadini le dobbiamo valutare in questo modo. Se ci sarà qualcuno, un partito, un movimento o qualcos'altro del genere all'interno del Parlamento regionale che propone un'idea giusta, noi siamo pronti ad appoggiarla. Non ci facciamo problemi da chi venga con l'idea. L'importante è se è un'idea giusta, se è un'idea per i cittadini, allora parliamo bene. Eccoci qua, rientrati in diretta dopo l'intervista al candidato del Movimento 5 Stelle per la Sicilia, Giancarlo Cancelleri. Andiamo a Bergamo, saliamo dunque la penisola. Franco, buonasera, dalla provincia di Bergamo. Buonasera, buonasera a lei e grazie per avermi richiamato. Eccoci qua. Pronto? Prego. Sì, sì. Sì. No, niente, volevo solo fare un piccolo e breve intervento che riguarda un aggettivo, diciamo una maniera di diffondere le notizie che ultimamente sul Movimento 5 Stelle i vari giornali, i vari media, voi compresi poco fa, fate spesso, tipo lei poco fa ha detto Giovanni Favi ha pizzicato deve pagare sì. 200 euro per la partecipazione a trasmissioni. Non solo lui, non solo lui, pizzicati anche gli altri, sì. Pizzicato che non va bene nel nostro caso, perché sono due anni che Giovanni Favia sul Movimento 5 Stelle Emilia Romagna sito ha pubblicato, e il Movimento 5 Stelle su questo penso che tutti siamo d'accordo, è forse l'unico che da sempre predica e attua la trasparenza totale su quelle che sono le entrate. Il Movimento 5 Stelle, non dimentichiamo, è stato l'unico a lasciare 1.700.000 euro di rimborsi elettorali. Sì. Nelle casse del Ministero del Tesoro. A Bologna ha lasciato quasi 10.000 euro i consiglieri comunali nelle casse del comune. A Genova hanno rinunciato a altri benefit. E cos'è che c'era pubblicato sul blog di Favia? Sì. No, sul blog di Favia è possibile ritrovare tutte quante sono le spese che escono dal movimento più che di Favia, del Movimento 5 Stelle Emilia Romagna. Il Movimento 5 Stelle non ha possibilità di veicolare oltre alla rete e di dialogare direttamente con i propri con i cittadini, anche con tutti i cittadini, non soltanto quelli che si sentono parte del Movimento 5 Stelle. Quindi hanno colto un'occasione come quella, come colta da per tutti, che è da distinguere dal fatto di andare in una trasmissione quale quella di Vespa o qualsiasi altro tipo di trasmissione di quel genere, dove sappiamo benissimo come spesso vanno a finire le cose, con trabocchetti e cose varie. Lì si trattava di parlare direttamente con i cittadini e rispondere alle loro domande. Spendere 200 euro e dire pizzicato il Movimento 5 Stelle perché ha speso 200 euro per poter dialogare con i cittadini in canali assolutamente locali, come lo stesso Fabio e come i fatti descrivono, penso che sia faccia parte di tutto un disegno che c'è da quando. Guardi Franco, la fermo subito, poi se vuole la faccio anche continuare, sì. Anche se ha parlato abbastanza su questo argomento. Da parte mia non c'è nessun disegno, io non appartengo a nessun disegno, credo, almeno spero, a mia insaputa forse c'è un disegno. Quello che secondo me non è corretto è pagare per andare in televisione, per dire la propria, perché trasmissioni dove si fa informazione non si va pagando, secondo me. Quindi questo vale per tutti, non solo per Favia, ma vale anche per quegli altri dell'UDC, del PDL, che sono stati, secondo me, pizzicati in questo senso. Per quanto riguarda quello del Movimento 5 Stelle, c'è l'aspetto in più che questo lo chiami come vuole, diktat, indicazione di non andare, di non apparire spesso nei talk show in televisione per non essere strumentalizzati, eccetera. Poi però si paga per andare comunque. Questo era l'elemento di contraddizione. Il pizzicati vale per questo, ma vale per tutti, cioè vale anche per quegli altri, perché ripeto, secondo me trasparentemente non si paga per andare in televisione. Non è come nei giornali con le foto scandalistiche, dove si viene pagati per riempire una foto. La politica dovrebbe essere, e secondo me è una cosa differente, tant'è vero che c'è una indagine dell'Associazione della Stampa locale, credo, e anche dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Franco, se vuole aggiungere qualcosa, se no su questo argomento ci siamo detti quello che pensavamo. La differenziazione che però va fatta, sì, è che lo stop o il diktat, come lei lo vuole, sì, chiamare, fatto per non andare nelle trasmissioni, si riferiva alle trasmissioni che cui dicevo prima, sì. Vespa, Company, eccetera, quelle trasmissioni nazionali in prima serata, eccetera, anche eccetera. La 7, anche quelle locali anche, vivono anche, magari proprio su queste cose. Ma adesso lei fa una distinzione tra nazionali e locali, però anche trasmissioni come 8:30, dove non mi pare ci siano trabocchetti nei confronti di nessuno, anche lì c'è stata una certa difficoltà. Comunque, grazie Franco. Titoli del TG1. Monti, nessun taglio delle tasse, sacrosanto fisco più leggero per famiglie e imprese oneste, ma servono conti in ordine e riforme. Ilva, ancora scioperi e proteste degli operai, cortei vietati domani per la visita a Taranto dei ministri Clini e Passera. Benzina un soffio dai 2 euro, Merkel replica ai falchi del suo partito l'impegno della BCE in linea con la Germania, Borsa di Milano in rialzo. Wikileaks, l'Ecuador concede asilo politico ad Assange, rifugiato nella sua ambasciata, dura reazione di Londra, non lascerà il paese. Sudafrica, la polizia spara sui minatori armati di macete in sciopero da giorni, una strage, 18 operai muoiono davanti alle telecamere. Non più il nome del farmaco, d'ora in poi sulle ricette mediche dovrà essere indicato solo il principio attivo. 35 anni senza Elvis, migliaia di fan a Memphis per visitare la Casa Museo e la tomba del re del rock. Eventi, concerti e gare di sosia celebrano il suo mito intramontabile. Questi titoli del TG1, adesso 800-24-00-24, riprendiamo con le vostre chiamate, c'è spazio fino alle 20:30, quindi c'è ancora tempo. Paolo dalla provincia di Ferrara, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Buonasera. Prego. Pronto? Allora sentiamo, sì Paolo, può dire quello niente, per cui buonasera, chiamato. Volevo solamente commentare l'intervista dell'onorevole Gasparri, rilanciandomi al discorso di mezz'ora fa. Cioè, questo dimostra proprio che noi non siamo governati da politici, ma da una classe oligarchica che si continua a proteggere e a difendere. Il trattamento che è riservato al sindaco di Pavia è stata una cosa veramente vergognosa, dimostra l'arroganza e la prepotenza della classe politica, come fanno con Renzi la sinistra, la destra sta facendo adesso lo stesso discorso con questo signore di Pavia. Mi dispiace perché io ho sempre votato centrodestra, alternativamente delle volte ho esercitato il diritto di voto, altre volte no, ma questa volta penso che sia veramente finita, il mio voto non l'avranno mai più. Grazie, volevo solamente dire questo, buonasera. Grazie Paolo. Allora riprendiamo con i titoli della 7. Non è il momento giusto per tagliare le tasse, fa sapere il Presidente del Consiglio, smentendo le indiscrezioni di stampa pubblicate ieri. Non volevo rovinare il Ferragosto degli italiani, dice il Premier, ammettendo che il carico fiscale è eccessivo, ma in questo momento il riequilibrio della finanza pubblica è essenziale. Mentre accuse di rigorismo e finanziamento di stati piovono sulla Merkel e su Mario Draghi con la cancelliera che le rispedisce al mittente, le piazze europee vivono una giornata tutta a rialzo. A trascinare i listini sono i risultati di Milano con il segno più vicino al 2% e di Madrid che guadagna un vistoso 3,8%, bene anche lo spread intorno ai 420 punti. Domani la visita dei ministri Clini e Passera all'Ilva di Taranto, per l'occasione città blindata con il divieto di cortei e manifestazioni nella zona rossa. Prima di tutto evitare la chiusura dello stabilimento, ha detto il ministro Passera. Oggi altre 2 ore di sciopero da parte di CISL e UIL. Ed ecco la vera stangata sul rientro delle poche vacanze dell'estate di crisi del 2012. Il prezzo della benzina sfiora quota 2 euro al litro, qualcosa come 560 milioni di spese in più per gli automobilisti in partenza. Rispetto allo scorso anno il pieno costa 20 euro in più e le associazioni dei consumatori avvertono il costo aumenta di giorno in giorno nonostante i ribassi del petrolio. Battaglia diplomatica attorno a Julian Assange, Mr. WikiLeaks, a cui l'Ecuador ha concesso asilo politico. Londra punta i piedi e dice da qui non se ne andrà mai da uomo libero. E la Svezia, che aspetta l'estradizione, usa parole durissime e giudica inaccettabile che l'Ecuador ostacoli la giustizia. La polizia sudafricana spara contro i gruppi di operai della miniera di platino di Marikana, ne uccide 18, da quasi 2 settimane i minatori sono in sciopero contro il licenziamento di 3.000 persone per chiedere l'aumento del salario che è di circa 400 euro al mese. Eccoci qua di nuovo in diretta 800 24 00 24. Riprendiamo con i vostri interventi. Sentiamo Giovanni che ci chiama da Napoli. Buonasera Giovanni, ci sente? Buonasera, senta, io da tempo che volevo intervenire. Eccoci. Io sono un pendolare del mare, quasi quotidianamente faccio la tratta a Napoli Ischia, Molo Beverello, Pozzuoli, Ischia. Sì. E vedo fisicamente le condizioni del mare sono tragiche, si vedono rifiuti di tutti i tipi, colori dell'iride dell'arcobaleno di tutti i tipi, e non riesco a capire come si possa dare la balneabilità in quelle zone, anche perché si sa benissimo che i depuratori sia della costa che delle isole non funzionano, e si sa benissimo anche quello che si sversa con i fiumi e con i correnti, quello che si sversa tutto nel Golfo di Napoli. Ho letto delle dichiarazioni del nostro sindaco, De Magistris, della balneabilità del mare di Mergellina, ha dichiarato addirittura condizioni eccellenti. Io non riesco a capacitarmi, fisicamente vedo un mare disastroso. A Ischia molta gente si lamenta perché l'acqua non è assolutamente balneabile, si sente addirittura l'odore di fogna, insomma. Quindi è una fogna a cielo aperto il mare, e i controllori che dovrebbero controllare, chi li controlla? Sentivo poco fa un vostro ascoltatore che parlava di ARPA. Sì, sì, diceva esattamente quello che sta dicendo lei, cioè che chi fa i controlli viene avvisa di chi deve essere controllato, però sa, nel caso del mare è inutile avvertire, perché chi avverti e poi cosa avverti? Se c'è un inquinamento grosso non è che lo puoi spostare per il momento nel quale arriva il controllo. Probabilmente i controlli sono limitati, nel senso che si controlla un punto della costa, ma non tutti i punti di tutte le coste, perché le risorse sono anche limitate. Quindi poi succede quello che dice lei, magari i controlli vengono fatti a giugno, le pagelle vengono date a luglio, poi si va al mare ad agosto e c'è qualche comune che sversa, c'è qualcuno che non ha messo i depuratori. Questo purtroppo accade. Vogliamo concludere che ci vorrebbe più severità? Sicuramente sì. Se è quello che voleva dire, insomma. Poi che De Magistris dica che il mare è pulito, questo fa un po' ridere, perché che elementi ha il sindaco per dire no? Se sembra una difesa, poi ognuno difende la sua spiaggia. E se poi come è accaduto recentemente ci sono delle prove che dicono il contrario, è inutile dire che il mare è pulito, se invece poi ci sono delle prove, come è successo 2 giorni fa, che l'ultima rilevazione diceva che la Campania, la Calabria e la Liguria avevano dei livelli di inquinamento alti sulle loro coste. È quello che sta dicendo lei, insomma, ecco. Sì, vabbè, Giovanni, infatti, sì, voleva aggiungere qualcosa? Io sì. Io delle volte vedo le condizioni del mare che sono proprio le day after. Si vede di tutto il mare. Come si fa a dire che la qualità è eccellente? Va bene, grazie. Salutiamo un ospite che viene dall'estero. No, scherzo. Andrea dal Canton Ticino, buonasera. Estero, addirittura extracomunitario. Cioè, lei chiama proprio dal Canton Ticino? No, chiamo dalla Milano-Bergamo, ma ho ascoltato l'intervento del presidente della provincia di Sondrio. Perché noi quelli che chiamano dall'estero non li facciamo intervenire, soprattutto se sono extracomunitari. Quindi mi stupiva è riuscito a passare il filtro. Sì, prego, prego. No, sono riuscito a passare il filtro anche perché chiamo con un cellulare italiano, perciò. No, volevo rettificare un attimino l'affermazione del presidente della provincia di Sondrio. Sì. Non è, come dice lui, la tassazione in Svizzera comunale, non è proprio così. La tassazione in Svizzera è divisa a 3 livelli, federale, cioè statale, diciamo così, cantonale e comunale. La cantonale e la comunale sono moltiplicatori della federale, e a seconda se un comune è gestito bene o male, applica un moltiplicatore che può essere 1 o inferiore a 1 o superiore a 1 a seconda delle esigenze finanziarie. Non è che prende tutte le tasse per quello che avanza, lo dà a Berna. Berna si piglia il suo, sempre e indipendentemente da. Non è così che funziona. È una tassazione divisa a tre livelli, perché tre sono i livelli di amministrazione. Invece cosa aveva detto il presidente della provincia di Sondrio, che non mi ricordo. Il presidente della provincia di Sondrio diceva che il comune era il centro catalizzatore delle risorse finanziarie e prendeva quello che gli serviva, poi eventualmente dava a Berna, allo Stato centrale. Tutte balle. Il cantone, il comune, che è l'ente territoriale più piccolo che abbiamo in Svizzera. Noi non abbiamo province, tra parentesi. Vabbè, siete così non piccini che... Sì. Abbiamo i cantoni che hanno quasi una giurisdizione di come stati, tant'è vero che il Canton Ticino è Repubblica Cantone del Ticino, che può assomigliare alle vostre regioni, con competenze molto più ampie, ovvio, perché siamo uno Stato federale. Ma non è come dice il sindaco, il presidente della provincia di Sondrio. Non va bene, così. Sertori redarguito da un cittadino svizzero. Sa, ma le affermazioni... No, ma perché io capisco, ma che io vede, vivendo in Ticino c'è anche un partito che è la Lega dei Ticinesi, sì. No? Che è il controaltare italiano e svizzero della Lega... della Lega Nord, che quando è ora di scagliarsi contro i frontalieri, cioè gli italiani che vengono in Canton Ticino a lavorare, che sono 40.000, non gliene frega niente di che colore della pelle, da che regione provengono, sono stranieri tout court. E allora me fa ridere certi tipi di estremazioni di leghisti vostri, che sparano a zero su determinati argomenti, quando i leghisti nostri, che sono stati finanziati per anni dai leghisti vostri, perché i Bossi e Company a Lugano si vedevano spessissimo, probabilmente non solo per feste popolari o strette di mano, e dire delle cose in completa contraddizione uno con l'altro, portare ad esempio per la popolazione italiana esempi che non esistono, falsificare una realtà che non esiste, non siamo il miglior paese del mondo, abbiamo dei difetti che fanno paura, anche e non siamo neanche tanto bravi a mascherare. Sì, ma guardi, credo che Sertori lo diceva positivamente quel fatto lì, anche se poi lo estremizzava un po' dicendo che il cantone si tiene tutte le risorse, invece poi lei ci sta dicendo che non è così, non è mai come viene dipinto quando si parla di queste cose con i politici, c'è sempre una forzatura, no? per dare un sostegno alle proprie opinioni, e d'altra parte questo lo sappiamo. Comunque grazie Andrea, grazie per il suo intervento. Se voleva aggiungere qualcos'altro, Lega su Lega, no, è caduto. Allora, traffico. La Zanzara. E allora 800 24 00 24, abbiamo Roberto che ci chiama da Udine. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Prego. Allora, io l'altra sera ho sentito una trasmissione in cui un consigliere regionale del Veneto diceva che loro stanno approntando una legge sulle unioni montane. Il Friuli Venezia Giulia, questa legge è già da un anno che è stata fatta proprio per dare per superare le comunità montane e accorpare i servizi dei piccoli comuni che altrimenti non potrebbero dare dei servizi efficienti ed efficaci ai loro cittadini. Quindi diciamo che siamo partiti un attimo prima. Ma ci sono i consigli, i consiglieri, gli organi elettivi, ci sono queste robe qua o no? Perché quello che sembrava dal discorso del Veneto è legge bipartisan, PDL, PD, Lega, quindi tripartisan se vogliamo, è che in realtà si riproducessero un po' delle cose delle comunità montane. No, I comuni fanno parte dell'Unione Montana in sì. questo caso, e quindi sono rappresentati i sindaci dei comuni che fanno parte di quell'ambito territoriale, quindi è un secondo livello. Sono e solo i sindaci, bene. È elezione diretta con una serie di restringimenti, nel senso che c'è solo il presidente che poi può nominare una giunta o quant'altro. Quindi insomma voi andate orgogliosi in Friuli di questa cosa perché avete anticipato i tempi, del resto che bisogna risparmiare si sa, non c'era bisogno della spending review del governo Monti, e quindi dove c'era da muoversi, dove c'erano un po' di freschezza di idee, qualcosa è stato fatto, per esempio lì da voi. Ecco, io sono anche un amministratore di un piccolo comune sì. di 1800 abitanti, non però in zona montana, sì. Noi abbiamo fatto una unione dei comuni, che però non intendersi con fusione dei comuni, ma un primo passo per mettere assieme tutti i servizi con un'altra amministrazione comunale a noi molto vicina e con cui collaboriamo già da diverso tempo, che ha 7.000 abitanti, quindi già raggiungiamo un comune di quasi 9.000 abitanti, che è già un primo passo, credo, per dare dei servizi efficienti ai cittadini, perché i cittadini sono quelli che ci chiedono dei servizi efficienti. Va bene, grazie. Grazie Roberto, grazie. Andiamo a Pietro che ci chiama da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire sui grillini a tutto campo, nel senso, nonostante sia un movimento assolutamente zonale, vorrei parlarne in complesso, insomma, non solo di Parma, non solo di Ferrara, non solo della Sicilia, ma di alcune note caratteristiche, se mi permette. Sì, ma zonale che c'entra però? Un movimento zonale? Cosa voleva dire? È risaputo il fatto che il movimento dei grillini ha ideologie diverse a seconda delle zone, insomma ideologie, ecco, ha impostazioni. Ah, ok, diverse. Cioè si vuol dire che sono molto disomogenei sul territorio nazionale. Ok, sì, sì. Sono molto territoriali. A Bologna, io sono di Reggio Emilia, a Bologna dicono cose un po' diverse da quelle che dicono a Parma e da quelle che dicono a Reggio Emilia, insomma, per capirci. Uh-huh. Qui è legittimo, i problemi delle città sono diversi. Sono anche diversi, sì, perché poi è politica locale, sì, sì, sì. Beh, però sì, cos'è, diciamo, che voleva dire? Che sono meno compatti di un partito nazionale classico. Sì. Ecco. Ma lei li ha votati? Ecco, no, io parto da questa premessa. Io fossi stato residente a Parma, almeno al ballottaggio certamente li avrei votati. E ho invitato molti amici a farlo. Forse li avrei votati anche al primo turno, non glielo so dire onestamente, al ballottaggio di sicuro. E mi sono trovato con io stesso molto deluso dall'azione amministrativa di Pizzarotti a Parma in questi primi mesi, poi è evidente ha ancora 4 anni quasi e mezzo di tempo per... Beh, non è successo quasi nulla, perché insomma il tempo che ci è voluto per fare la giunta è questo, va bene. Si parla di non professionisti della politica, quindi gli diamo un pochino più di tempo. Quanto tempo è che è in sella la giunta lì? Ormai saranno 7-8 mesi. E ma anche meno, Meno, 7, 6, sì. 7. Comunque guardi, ha sforato quasi del doppio rispetto al termine prescritto per legge per la nomina della giunta. E nel commissariamento che lui ha girato con un'azione poco nobile, ma insomma riuscendo a salvarsi dal commissariamento, perché in effetti ci ha messo il suo tempo a scegliersi gli assessori. Ora, sarebbe una questione che porterebbe di problemi in qualsiasi città, figuriamoci in una città che ha 850 milioni di euro di debito e opere pubbliche avviate finite. Quindi questo tempo di per sé sarebbe forse, va considerato in nome dei problemi che va ad acuire in una realtà già difficile. Intendeva nominare un funzionario o un assessore, insomma persona di sua fiducia, e il movimento glielo impedisce come con un diktat che credo nessun partito nazionale, neanche quelli che loro criticano più acerbamente, avrebbe avuto il coraggio di sì, fare. Questo, di questo ne abbiamo parlato anche noi. Comunque sono 3 mesi che sono nemmeno 3 mesi che c'è la giunta. Cioè la giunta forse anche meno, che c'è stata la nomina di Pizzarotti, quindi meno di 7 mesi. È un po' presto per dire qualcosa. Comunque staremo a vedere. Pietro, grazie. Antonio da Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Grazie di avermi richiamato. Io volevo esprimere il mio parere su quello che sta succedendo a Taranto, perché ci ho lavorato 27 anni, di cui 16 ero caporeparto di manutenzione agli alti forni. Beh, una bella esperienza. Sì. Prego? No, dico una bella esperienza, 27 anni a Cipicchia. Sì, difatti, sono venuto in perfezionamento quando ho capito che facevamo piano piano con i tagli sul budget di manutenzione, facevamo la fine che poi ha fatto la ThyssenKrupp con gli incendi, così, gli incidenti, insomma. Cioè lei dice che ci sono stati, mi scusi Antonio, lei dice che ci sono stati tagli alle spese per la manutenzione all'Ilva? Come no, ero io che ho preparato di manutenzione, quindi... Quindi l'ha visto, lo Io l'ho vissuto sulla mia pelle, diciamo così, ecco. Onestamente quello che io ora vorrei dire molto molto forte, perché io sono a Pisa, non sono più a Taranto, vorrei essere là, ho scritto anche una lettera al sindaco. Quello che mi dispiace è che continuiamo a cercare di trovare le colpe, il passato, però nessuno dice quello che si potrebbe fare, io lo vorrei dire anche adesso in maniera molto terra terra, no? Comprensibile. l'Ilva di Taranto è uno stabilimento più grande d'Europa, è a ciclo continuo, quindi sono previsti per il progetto a tutti gli impianti le riserve installate. Faccio un esempio: ci sono 5 altiforni, non sono mai tutti in marcia, no? Ci sono sempre uno o due fermi, e quindi potrebbero già iniziare a bonificare gli impianti fermi. I comuni che mandano la polvere sul quartiere Tamburi, che è vicino al cimitero, anche il danno più grosso ai cittadini di Taranto, sono alti 30 metri, si possono abbassare e andare a 20 metri, si possono alzare delle barriere antipolvere, si possono rallentare le marce dei forni, delle acciaierie in marcia. Sì, Antonio, a parte che sentiamo l'audio molto forte, non so se lei si sta mangiando il telefono oppure se c'è qualche altro problema. Però da come lei dice, sembra che tutte queste cose non si fanno perché qualcuno non le vuole fare, forse, oppure cosa? Soldi, guarda. Eh? È un problema di soldi, il solito problema che per cui la famiglia Riva oggi, fino ad oggi, secondo quello che si sente, no? I sospetti sono che per fare profitto non abbiamo fatto manutenzione, non abbiamo tenuto in mai. Ci sono degli impianti di aspirazione fumi e di depurazione che sono fermi da anni. Quindi lei capisce che se io la manutenzione alla macchina mia non la faccio, non guardo, non faccio più tagliandi, non faccio più, è chiaro che meno soldi spendo, va bene per la tasca ma non per la sicurezza. Va bene, grazie Antonio per questo intervento da un ex dipendente dell'Ilva. Insomma, ha detto delle cose. Orazio da Messina, buonasera. Chiudiamo con questa telefonata. Io volevo intervenire su due argomenti che sono legati l'uno all'altro, sarò, spero, telegrafico. Abbiamo un minuto, quindi dopo le taglierò la linea. Abbiamo un minuto, quindi dopo le taglieremo la linea. Prego. Sì. La divisione dell'Italia in due parti per quanto riguarda la moneta, perfettamente d'accordo, l'Italia del Nord, euro, l'Italia del Sud, con le monete preunitarie, non la lira che non mi piace, l'onza e il tarì, per esempio, ma questo comporta la divisione territoriale politica. Che monete, scusi? In due parti. Finalmente sì. Dobbiamo amare l'unità. Ricostituiamo due stati meridionali, una repubblica insulare e peninsulare che ricalca la vecchia parte peninsulare del Regno del Sud. Cioè lei sta disegnando uno scenario, Orazio, guardi, facciamo così, lei sta disegnando uno scenario strategico, diciamo, la risposta da sud dalla provocazione leghista, l'Italia del Nord nell'euro, l'Italia del Sud fuori. La richiamiamo domani sera, iniziamo la puntata così, ci spiega questo scenario visto dal Mezzogiorno, visto da Messina. Per questa sera è tutto, un ringraziamento come per tutta la settimana a Cristian Goldoni, Nadia Zammitti e Laura Faggini, redazione, Valeria Bernardi in regia questa sera. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 18. Buona serata a tutti. Radio 24. La passione si sente.